Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, benvenuti, bentornati, Radio 24, Voice Anatomy, domenica 11 dicembre, sono le 14:32 primi. Sapete che io comincio sempre regalando l'inizio a una voce che ci ha accompagnato, che ci sta accompagnando, che nasce questo giorno, accompagnata da un corpo ovviamente. Oggi mi sembrava giusto dare voce al nostro vice direttore Sebastiano Marisoni, che è in diretta da lontano. Sebastiano! Ciao Pino, come stai? Hai capito? È un vero piacere essere tuo ospite, ti ringrazio. Va bene così impostata la voce? No, Sebastiano! Voi stai nato... Sei strepitoso, però ecco, per ricordarvi adesso voglio far sentire la musica che accompagna la vita, dalla vita in su e dalla vita in giù, del nostro Sebastiano Marisoni. Ascoltiamo la musica che lo caratterizza e lo racconta. Focus Economia. Eccoci collegati con Sebastiano. Allora, come va? Dove sei in questo momento, Sebastiano? A festeggiare il tuo compleanno? Sono a festeggiare, non ti dirò mai dove, così manteniamo un grossissimo riservo su tutto. Festeggiamo, chiaramente i compleanni vanno festeggiati in maniera relativamente sobria, periodo, come vediamo. Fammi fare esercitare il mio ruolo per un minuto. Ecco, ancora. Mi torna l'economista. È un periodo molto delicato, il governo si sta formando, è stato un anno... Così non parlo, perché le celebrazioni del compleanno sono, io ti ringrazio molto, ma tendono ad essere, rischiano di essere sempre abbastanza autoreferenziali. No, qui si va a chiudere un 2016 Pino intenso, intensissimo. Difficile. Non vorrei ripercorrere tutte le difficoltà. No, quello non te lo chiedo. Danita, Turchia, ma anche e soprattutto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Un 2016 intenso, intensissimo professionalmente parlando, in cui comunque si è consolidata anche tutta una capacità di Radio 24 di raccontare notizie senza diventare pesante. Poi tu qualche corso a tutti noi dovresti farci, ma dovresti farci. Quello è sicuro, Sebastiano, ma tu saresti un mio grande collaboratore, perché insomma devo dire che tu sei la voce più interessante. Guarda, vicino a me c'è una delle più grandi doppiatrici italiane, attrice, che è Domitilla D'Amico. Com'è la voce del nostro vice direttore adesso? Dimmi. Ma guarda, devo dire che... ha un suo perché, è bella, calda, la sto ascoltando con grande interesse. Quando ti dice che il Dow Jones cala del 16 punti, non te ne frega niente, niente con questa voce, niente, capito? Ti distrae proprio. Esatto, una crisi affrontata con questa voce. Una musica. Lo facciamo apposta. No, ma sei solo tu così, apposta. Senza nulla togliere a tutti gli altri straordinari conduttori, giornalisti, economisti, eccetera, di questa radio straordinaria, davvero. Ma però noi tendiamo ad avere una voce più cupa quando il Dow Jones cala. Esatto. Molto male, invece leggermente più alta e acuta quando la borsa sale. E quando lo spread è al 12 e 12, allora tu sei felicissimo, voce femminile, 180 decibel, dico, e sei felice. E poi potremmo arrivare anche alla voce afona, quando a quel punto quella crisi. Non c'è più nulla da dire. Quando vai, a questo punto è finita, mi parli così, insomma, Sebastiano, va bene. A questo punto è finita, è un po' modello Corleone, una cosa del genere. E lì ne so qualcosa pure io, insomma. Parte un po' il sigulo. È un po' tuo, però io non mi permetto. No, ma sei bravo, un giorno voglio averti fisicamente, ma no, aspetta, fisicamente nel senso presente in questa trasmissione. Sebastiano. Ecco, voglio avere fisicamente, ti ringrazio. Sì, non è bello. Magari il giorno del mio compleanno, no. Ecco, no. Magari un giorno, un altro giorno. Cose lasciamo le premonenti, esatto. No, almeno festeggiare così, con non è bello. Rispetto, però non è la mia tazza di tè. No, mi è mancato un avverbio, una congiunzione, anche un sostantivo, ecco, per continuare con la frase. Va bene, Sebastiano, auguri da tutti noi davvero, grazie per regalarci quello grazie che fai, la tua grande professionalità e la grande organizzazione che ha questa radio. Grazie Sebastiano, auguri di cuore. Grazie a te, ciao, grazie ascoltatori, grazie davvero. Va bene, abbiamo cominciato così, abbiamo fatto anche sentire una voce che ha giudicato, devo dire, una voce interessante, non è ruffianeria, ipocrisia nei confronti di chi governa la radio, assolutamente. Però la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è al mondo, l'abbiamo detto dalla prima puntata, e tu eri ospite alla prima puntata di Voice Anatomy ormai 70 puntate fa. Tante. Sì, tu quindi eri è andata giovane. Bene. È andata benissimo. andata benissimo. Ma sai, abbiamo fatto questo battesimo. È un viaggio all'interno del mondo della voce, raccontato sì da attori, doppiatori, ma vocologi, etnomusicologi, chiunque ha a che fare con la voce. L'abbiamo urlato da questi microfoni, bisognerebbe insegnarlo a scuola, all'italiano, ma non tanto la grammatica, ma a parlare italiano e l'impostazione della voce. Non lo insegnano più. No, ma non hanno mai fatto il coaching, si fa dall'altra parte d'Europa, è proprio per questo, vicino a te, di fronte a te, vedi, la trasmissione sta diventando osmotica perché mi piace il fatto delle contaminazioni attraverso gli ospiti. Questa è una storia bellissima, sono due bravissimi musicisti, io ero a Parigi con mia moglie, dove vivo normalmente, perché tu sai che io, insomma, certo, i miei film, la mia storia tutto nasce lì, a Parigi, a Parigi. Sì, nel Marais. A Parigi, sai, no, sono lì, insomma, loro mi amano. Siamo io, la Bellucci e Barry White. No, non c'è e nessuno. Cassel? No, Vincent, no, no. Vincent? No, no, non so, non sono Filan de Pes. No, se finì. No, ci sono io a Bellucci a Parigi. Insomma, a parte gli scherzi, ogni tanto si va perché insomma lì si respira un'area mitteleuropea straordinaria, certo, perché c'è il cinema, l'arte, quella vera, no? Quelli che aiutano gli attori, gli esordienti, eccetera. E ho sentito via etere un gruppo cantava in italiano e i francesi lo ballavano, lo ascoltavano in un locale importante nel Marais, e ho detto chi sono, cioè perché sono famosi qui e io non li conosco in Italia. Ho fatto una ricerca e li ho convocati immediatamente e sono qui con me Axel e Ruben. Siamo felici di essere in vostra presenza, anzi vi ringraziamo. Questo è Axel che assomiglia moltissimo, no? Cioè, tu... non so se faccio salire lo spread o meno, però spero no, di sì, no, meno, fatto... lì Ruben vicino al microfono, puoi metterlo anche vicino al microfono. Ruben, sì, tu sei un cantante, sei un musicista. Insomma, mi sono informato di questo gruppo Blanche, che è l'unica cosa francese che hanno, è il nome. Blanche. Esatto. Blanche, sì. Perché Blanche? Blanche perché prende spunto da una piazza, è la Piazza Bianca di Parigi anticamente, perché era dove si vendeva la farina. E come nella migliore tradizione rock abbiamo preso il nome dal posto dove suoniamo, perché il nostro studio è accanto alla Piazza Blanche, certo, e quindi ci siamo appropriati, certo, di questo nome. Facevo un gruppo che si chiama Piazza Rosolino Pilo, non era, esatto, bello. Era quello Blanche, non, cioè, noi abbiamo tanto per Blanche. Però male che stava in Piazza Blanche, perché ci è andata bene. Tu che piazza, tu dovevi dirla che piazza c'è. Io ho Piazza del Colosseo. Sì, non è male. La era di facile esportazione. Il Colosseo, sì, è vero, quella era facile. Blanche. No, e poi male. Ci piaceva il fatto di avere comunque qualcosa che ricordasse le nostre origini, che comunque sono Parigi, che è la città in cui ci siamo anche musicalmente formati, e ci sembrava giusto. Questa essendo... è la fuga dei cervelli dall'Italia, anche questa allora. È la nostra fuga dei cervelli, la nostra come quella di tanti altri ragazzi che stanno cercando la fortuna fuori e che insomma cercano di crearsela, però con l'obiettivo comunque di poter tornare qui. Ed essere qui, certo, perché poi ognuno deve conquistare, certo, casa propria. Poi cantate in italiano. Cantiamo in italiano, vogliamo rivendicare fortemente la nostra origine, anzi il fatto che siamo fuori a cercare di trovare il nostro spazio non significa che non sia questo il nostro mercato di riferimento, anzi. E è una grande fortuna poter vedere anche. E tanto lo ascolteremo adesso, perché queste sono parole bellissime, ma c'è dei brani interessantissimi. È fantastica. Non da primo ascolto. Primo ascolto già per chi ama un certo tipo di musica, che non so collocarla, ma dopo l'ascolteremo insieme e darei un giudizio anche tu. Certo. Invece, Domitilla D'Amico è un corpo che accompagna benissimo la sua voce, perché insomma. Sta un po' caldo all'interno dello studio, allora fai la felicità di tutti. L'effetto che fa Pino di solito. Sì, sappiamo, creo questo. Sì. Creo proprio delle endorfine. Fine molto forti e anche delle ovulazioni, anche più di una volta al mese. Ecco, per cui state attenti. Ma dai! Domitilla, ovviamente non voglio ripercorrere un'intervista già fatta, ma sei la voce di qualsiasi cosa che tutto si muove in un mondo femminile, cambiandola. Io intanto mi sentirei una Scarlett Johansson di Iron Man, per esempio. Dannata, dai. Dannata, ma no, di a posto. Dannata proprio. Dannata anche lei. Ascoltiamocela. Tony, ti presento l'agente Roma. Salve. Sono un'ombra dello SHIELD. Quando si è ammalato, il direttore Fury mi ha assegnato a lei. Le linee guida per la sicurezza a disposizione nel database del signor Stark offrono copiose soluzioni per l'uso non autorizzato. Che cosa mi avete fatto? Abbiamo fatto qualcosa per te. Ti placherai i sintomi. È biossido di litio. Vogliamo farti tornare al lavoro. Datemene un paio di confezioni e tornerò come nuovo. Non è una cura, riduce solo i sintomi. Rimediare completamente non sarà facile. Lo so, me ne intendo di queste cose. Sto cercando un elemento che possa rimpiazzare il palladio. Ho provato qualunque combinazione, ogni permutazione di tutti gli elementi noti. Beh, vorrei avvisarti che non le hai provate tutte. Ecco, di qui eri in Iron Man, tu certo, sei uno degli Avenger. Buglioni. Buglioni, c'è grande. È vero, devo chiamarlo anche Paolo. Buglioni. Bene, qualcuno già dice che devo fare dei corsi a qualche giornalista di Radio 24. Vabbè, ognuno c'ha il suo mestiere, però è giusto veicolare le notizie, qualsiasi cosa con una voce non bella, ma giusta come intenzioni. Quella è molto fondamentale. Molto importante e fondamentale, ma proprio nella vita, credo, anche nel lavoro, tutto. La voce è... Se non ce l'hai, se non sai, diciamo, parlare in una certa maniera, è difficilissimo. Ma poi ripeto, non serve la bella voce, sono le belle intenzioni, non trovi, Axel? Quello, come la vedete questa cosa? Anche nella canzone, nella musica, cioè, non è la bella voce da crooner che fa il successo di una canzone, ma la voce è giusta. L'espressività deve comunicare qualche cosa, deve trasmettere. Tu parli francese, ma sei italiano? Cioè, c'è un'infusione? È di Bali vecchia. E no, perché sono di Bari, che notoriamente è Apollo 600. Avrei sentito l'eleganza, come diversa. Sì, che ha due luci, ti ricordi? Sì, uguale. Fra Spoleto e Spoleto. Pechino, capito, parlava un pochettino così, no? Che un pochino d'accento. Poi ispettore Clouseau anche. È difficile fare l'accento. Umbro Parigino. La voce è importante. Voi siete tutte e due solisti e cantanti del gruppo, ovviamente. Sì. Suonate tutti gli strumenti, perché ci accompagna anche musica elettronica. Beh. Esattamente. Sì. In realtà l'esperimento più bello per noi è stato lavorare sulle nostre voci, trattandola come un'unica componente, uno strumento. Ovviamente armonizzato, non più basso, insomma, esatto. Non all'unisono. Ed è stato bello come percorso per noi, perché comunque abbiamo sia due universi musicali che due impostazioni vocali molto diverse. Quindi trovare l'anello di congiunzione è stato un bellissimo percorso. Tu di dove sei, Axel? Invece io sono padano, sono insomma milanese di adozione, nel frattempo parigina, però insomma ho vissuto in Inghilterra, adesso sono finito a Parigi. Quanti anni hai, scusami? Ma quanti me ne dai? Ma che c'entra? L'ergastolo, di la verità. Dai, la voce 30, può coprire 30, da 25 30. Ai 30. Esatto, come voce può coprire significa poi doppiare quegli attori che hanno quelle età lì. E tu, Ruben, quanti anni hai? Ma siete pazzi e non lo volete dire, ragazzi. Certo, mi dilla, quanti anni hai? Guarda, quanti anni hai, Domitilla? Io? Pure non li ho gli anni io. Infatti. Ma sono l'unico scemo. Vabbè, che... Cos'è l'anagrafe, d'altronde? Io lo dico. Dai. No, ma io ne ho 16. Va bene. In euro, per due, infatti. Esatto, infatti. Se ormai avete perso completamente il modo di parlare, c'è cioè l'inflessione elegante, però devo dire che un francese che parla italiano è molto, non è male. Molto elegante. Tu hai doppiato film francesi, sì? Sì, anche. Chi ti ricordi di film francesi? Ho doppiato Eva Green in The Dreamers. Beh. E lì ero proprio affiancata da un coach che mi doveva far parlare parigino del 68. Beh, insomma, una cosa proprio facilissima. C'è capito? C'è proprio con l'accento del 68. Ma com'è l'accento parigino? Un po' ribelle, tutto, insomma. L'accento parigino è come il nostro romano, quello c'è capito. C'è da dire che già partivo da una base, ma questo tutti i turni lì vicino a me col maestro dietro. Maestro Bertolucci. Maestro, sì, perfetta, pure lui c'aveva un po' d'accento. Anche il maestro. Tutti l'accento. Ma qui parlavi con un accento cioè italiano, con un accento francese del 68. Proprio. Ma parli francese. Francese e poi in italiano con l'accento francese, ma doveva essere vero, sai, a volte può venire un po' falsato. Sì, quelle finte. Invece doveva essere stravero, quindi ti dico 30 turni così. Beh, bocca al lupo. Benissimo, noi invece abbiamo soltanto 10 blocchi, non così, ovviamente, il primo blocco è già andato verso la fine, ma lo sapete perfettamente, Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, come promesso, eccoci qua, Voice Anatomy, al mio fianco, alla mia sinistra, Domitilla D'Amico. Buon pomeriggio. Ha messo la voce numero 3, quella sensuale. Dall'altra parte, i Blanche, questo gruppo straordinario italiano, ma che ha le sue origini a Parigi e il suo successo a Parigi, adesso lo sta trasportando giustamente nella terra d'origine, cioè i cervelli che tornano anche nella patria di origine, giustamente. Buon pomeriggio anche da noi. Axel, ciao a tutti. Ruben, che ormai è barese ma parla parigino. Sì, ho un po' di accento, ma adesso chiamo Lino Banfi, ti faccio trattare male. Dai. Chiamo Ziolino, guarda che ti faccio combinare, che ripudia le origini, no? Vabbè, tu sei mai. Ma scherzo, assolutamente, no. Nessuno di noi. Bellissimi messaggi, auguri, in bocca al lupo a voi, come Blanche. Grazie. Qualcuno dice non è la voce, è l'interpretazione della punteggiatura, la lettura, non so cosa, la respirazione, ascoltatela. Sì, è tutto questo. Certo. Ciao Pino, un ringraziamento speciale a te e a tutti i tuoi ospiti che ogni domenica lietano e cullano le nostre orecchie con le loro grandi voci e i loro grandi cuori. Che bello, ti ringrazio. Bello. Inoltre per le emozioni e i grandi momenti di ironia che ci hai regalato al Gran Galà del doppiaggio, una serata memorabile. Grazie ancora, continua così appena puoi. Lodolo e Maggi. Maggi è venuto ma tornerà. Lodolo ancora no, ma dipende anche dai nostri colleghi, non crediate che poi sia accoppiata, eccetera eccetera eccetera. Beh, complimenti eccetera eccetera. Vabbè, andiamo a... sì, se vuoi lo ascoltiamo anche subito un pezzo loro e tu lo giudichi. Anche perché tu oggi sei un ospite d'onore, meno male. Sei... che bello, ma che meraviglia, la nostra... mi sento coccolatissimo. Ma no, perché sei l'apertura di questa trasmissione. È sei vero. Una cara amica e sei una voce che ormai accompagna il cinema in tutte le sale, ma sempre in maniera bella. Grazie. Cosa ascoltiamo? Dillo a me, ditelo forte tranquillamente. Ma se vogliamo iniziare con Nascondino. Nascondino. Allora, ascoltatela bene, perché sono... bisogna ascoltarla, perché è italiano, ma ha le origini, poi ce lo spiegherete voi. Ascoltiamo la cosa migliore. Vai, tutta. Scovami, nascondi. Solo per non... sì, no, no, per non confondere. Ovviamente. Com'è? È veramente, particolare. Veramente sembra, particolare. Sembrano le orme a un certo punto, a PFM, poi molto wow. Ballad e moderne. Cioè, c'è tutto, musica elettronica di base. Piace da morire questo grande della musica elettronica, veramente bello. Grazie, sì, che poi è comunque trattata tutta in maniera analogica, quindi è tutto suonato in tutto realtà, suonato. Però sì, certo. Tutto vero. L'intenzione è sicuramente quella filo elettronica, ecco. Belle voci. Grazie, ma noi siamo tuoi ammiratori, adesso sembra sì. Sì, sembra di circostanza, però in realtà ci siamo innamorati più volte di te senza saperlo. Senza saperlo, esatto. Lo so. No, io volevo approfittare di questa fortuna, insomma, di essere qua con te per chiederti se dove ha avuto origine la tua consapevolezza che la voce sarebbe diventata un mestiere. La consapevolezza nel corso degli anni, poi piano piano con calma. All'inizio era un gioco perché ero veramente piccola, avevo 4-5 anni. Quattro anni, sei già in pensione. E poi piano piano, insomma, è cresciuta con me la consapevolezza, vedendo che comunque funzionava la questione. Certo. Quindi poi la tua carriera d'attrice, so che è cominciata in uno spot televisivo insieme a Ferruccio Amendola. Sì, è vero. Sì, è vero. Beh, è successo, è venuto Luca dal Fabbro. Tutti quanti, sì, straordinario quell'attore, c'è, ma tu sei Carletto dei film. Sì, capito, un doppiatore straordinario. Ma no. Certo, come me sono ricordato Pagacarne ogni tanto, no? Succede. Certo, esatto, bellissimo. Ti leghi a un prodotto. Vero, e sì. Tu eri piccolissima che facevi un detersivo, no? Era un detersivo, sì. Dove nata sembra, poi la leggenda metropolitana vuole, era Ferruccio Amendola che faceva legame a questo detersivo ed era la voce di chiunque, certo. Ma dissero a Claudio Amendola, vedendo la pubblicità, dissero, ma perché tu padre, tu fai pure sto mostro? No, non è vero. Sì, ma raccontò Claudio al Costanzo Show, eravamo ospiti insieme io, Ferruccio e Claudio al finale proprio della vita purtroppo di Ferruccio Amendola, e raccontarono questo episodio dove a Claudio gli dissero, ammazza tuo padre doppia veramente chiunque, ammazza quanto è brutto quello veramente è mio padre. Insomma, buona situazione. Mamma mia, bellissimo. E tu i 4 anni, che sì, facevi? Avevo 4-5 facevi l'acqua, che facevi? Una bambina che si sporcava il vestito perché cadeva dalla bicicletta. Certo. Molto molto easy, molto semplice. Come ti sei avvicinata a questo mestiere? Sai che non me lo ricordo? Mi sono avvicinata così per caso. Mamma, papà, nessuno? Mamma, no. No, nessuno proprio. Papà è professore a Tor Vergata, ingegneria elettronica. Certo, proprio. È quello. È uno scienziato. Razionale. Mia madre è proprio un'altra cosa. E niente, è iniziata perché si conosceva qualcuno. E da lì io comunque ero molto portata da piccolina perché ripetevo sempre le favole. Mia madre metteva le favolette, io le ripetevo. Le imparavo tutte a memoria. Capirai quando, sai no, che i bambini sono sempre difficili, soprattutto quelli veri da trovare nel nostro mestiere, sì. No? Perché di solito ci sono i grandi che fanno i bambini piccoli, e invece lì hanno detto presto, portala da noi che a doppiaggio c'è bisogno sempre di bambini, e da lì è iniziata così. E ti divertivi anche? Cioè, allora, da morire! Sentiamo questa sorpresa... Vediamo. Soffro di perdita di memoria a breve termine. Sì! È esattamente così che devi dire. Bene, ora fingiamo d'essere altri pesciolini. Oh, ciao Dori! Ehi là! Ti va di giocare a nascondino? Va bene, mi piace giocare. Noi ci nascondiamo, tu conti e vieni a cercarci. Va bene, papà. No, non papà. Io sono il pesciolino simpatico che vuole essere tuo amico, d'accordo? Va bene, papà. No. Mi sono nascosta! Ora conta fino a 10. 1, 2, 3, 4, mi piace la sabbia, è squisciosa. Mamma, vado a giocare con loro. Dori. Vabbè, ma no, mi devi far piangere. Non sei tu. No. Hai fatto cominciare tua figlia. Devi far piangere. Che ha tua figlia? Amore, adesso ne ha 5. Come te? Ma quella è l'età per cominciare. Mamma, ha fatto la ricerca di Dori. Dori da giorno, la piccola Dori. Sì. Mamma mia. Amore, che bello. Bellissimo, però era stata molto contenta. E poi senti che vocetta cicciotta che c'ha. Me la fai risentire all'inizio un attimo, scusa? La vocetta proprio... Ecco. Sembra quasi un maschietto. Senti un po'. Soffro di perdita di memoria a breve termine. Soffro di perdita di memoria a breve termine. Di memoria. Perché è proprio preciso di memoria. Perché parla come te, che ce n'hai di più di anni, però. Non prenderla in giro, non è che c'ha gli stessi difetti. No, lo doveva dire proprio. Capito? Tu invece dovresti dirlo diversamente. C'hai 40 anni, ancora non sei uscito da sopra. Va bene, a fra poco, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, quasi le 15. Siamo qui in diretta a Radio 24 Voice Anatomy. Alla mia sinistra la straordinaria voce, donna, attrice, come ti chiami? Aspetta, come ti chiami? D'Amico. D'Amico, D'Amico. Un cognome mi piace, essendo un povero laziale, D'Amico, il grande numero 10. Cara Domitilla, vabbè, ma non si parla di calcio oggi, tanto all'incalzando il cielo abbiamo già giocato. Sì, beh, come e i miei amici di tutti convocati, soprannominati da me, mai una gioia quando mi ci collego, perché non mi dicono mai una notizia che sia decente. Pensate domenica scorsa col derby. Vabbè. E dall'altra parte abbiamo già ascoltato un brano di questi nostri amici Blanche al secolo, Axel e Ruben, due straordinari giovani. Grazie, che stanno riscuotendo grande successo d'Oltralpe, invece vorremmo portarli e questo qua. È il primo passaggio che stanno facendo, hanno ottimi manager, cioè, anche perché stanno avendo veramente un bellissimo successo in Francia. Per avere vorrei... un successo lì, insomma, non è facile, non è facile, ma perché noi italiani siamo bravi. Sì. E ce lo dimentichiamo ogni tanto, sì, che siamo, abbiamo inventato musica, arte, pittura, tutto, eppure a Parigi campo. Però Parigi ce lo ricorda che è quasi tutta roba nostra. E il Louvre, se riprendiamo qualche cosa, cioè, la chiude, rimane la piramide di vetro, e dai, su. Tutta roba nostra. La Gioconda. Sta lì, mi manda un puzzo. Mamma mia, guarda. Ma nessuna che poi al Louvre, quando uno entra, la Gioconda sarebbe un po' l'ultima cosa da guardare, certo, perché intorno c'è. Ma aveva illuso Sgarbi, capito, che era andato su a prendere sta Gioconda. Invece, ma l'avevi visto? No, non lo sapevo. È andato a combattere per la Gioconda. Vado a riprendere la Gioconda, vado a riprendere la Gioconda. Ma Sgarbi, tutti gli hanno menato pure lì. Non era la pubblicità della macchina. Non ti dico quante erano. No, non l'ho seguita. Tutti felici. No, questa cosa qui no, non l'ho seguita. Mi fate sentire uno Spider-Man dove la tua solita Kristen Dunst ti baci, sta prendendo caffè, ma sì, cioè, abbiamo i rumori, dobbiamo raccontare, visto che abbiamo dei microfoni abbastanza sensibili, o lei stava sbattendo la testa, e si sentiva, sentiva la sabbia, ecco fatto. I rumoristi quelli veri, esattamente. Ora sorseggia il caffè mentre noi ci... Ma voi fate tranquillamente. Sì, ascoltiamo la tua voce, anche se te non sei tu che parli, ma sei tu che parli nel film, Spider-Man Kissing Dust. C'è una cosa che volevo dirti da tempo. Quando mi trovavo lassù e credevo di dover morire, c'era una sola persona alla quale pensavo. E non era quella che avrei creduto prima. Eri tu, Peter. Continuavo a pensare, spero tanto di cavarmela. Così posso rivedere la faccia di Peter Parker ancora una volta. Sul serio? C'è un solo uomo al mondo che ha sempre vegliato su di me. Che mi fa sentire come se valessi più di quanto abbia mai pensato. Che mi fa sentire me stessa. E mi sta bene. La verità è... Beh, vabbè, dai. Ci siamo innamorati anche noi. Però no, lei con voi non ci viene. Lei si fa tutti i supereroi. Solo tutti, tutti. È vero. Però devo dire che, a parte i miei autori straordinari come Mauro Meconi e Alessia Navarro, devo dire che dall'altra parte del vetro Alessandro non è soltanto un grande tecnico del suono, è anche grande, un fautore di battute. E Rachele, che ringrazio ovviamente la nostra caporedattrice, e Milano, la messa in onda e quant'altro. Secondo me il successo di qualsiasi cosa è un successo d'insieme, cioè non è qui, qui te fregano, e qui te fregano a te, e invece se vinco, vinco da solo. Cioè, no, è tutti insieme che si fa un percorso. Verissimo. E non è facile, insomma, però è quello che decreta il successo anche di una squadra. Non si vogliono 11 campioni, ci vogliono amici. Amici che combattono lo stesso ideale. Ma adesso sto a fare Brave Art, però no, non l'ho mi fatto piaceva neanch'io. Questa cosa. Ma è così, basta, come quando lavoriamo noi, cioè anche voi, il fonico, il tecnico del suono, è fondamentale, insomma, ma lo devi far sentire parte di un percorso, di un progetto, la motivazione, no, quello quando stacca alle 7:30 chiude il microfono e ci vediamo domani al primo turno, non è così. E questo è bello che c'è questa partecipazione. C'era un team meraviglioso. Per cui l'ha detto lui che tutti i supereroi, capito? È vero, però, la squadra. È verissimo. Hai capito? A che cosa stai puntando adesso? Superati gli Avengers. No, adesso c'è Mrs. Peregrine. Ah, ci hai fatto Mrs. Peregrine, Eva Green. E poi adesso uscirà un bellissimo film, non vedo l'ora. Sai quando proprio ne fai uno? Fai si un può film, dire, sì, si può dire anche se uno firma privacy, ormai si sa, insomma. Tra poco esce, La La Land. Ah, La La Land, è vero. Con chi è lei? Emma Stone. Emma Stone. Emma Stone e Ryan Gosling. Una roba, non vedo l'ora di vederlo. Io faccio Emma Stone. Yes, e io faccio Ryan. Ryan Gosling. Abbiamo chiesto appositamente. Bello, bello, vero? Mamma mia, bellissimo. Ma è amore? Sì, è un musical, meraviglioso. Ma veramente, sì, guarda. Canta in italiano oppure no, rimane originale? Sì, però è molto parlato, nonostante ci siano molte musiche, è parlatissimo. Ed è veramente, veramente bello. Ne stanno parlando tutti. Riesci a diversificare tutte queste grandi attrici che fai? Non ne fai poche. Perché tu hai una grande personalità nella voce. Per cui quando c'è grande personalità, uno si può permettere il lusso, come i grandi del passato che avevano grande personalità, che magari Gualtiero De Angelis riesce a fare, Gary Grant, Jimmy Stewart, Gary Cooper, con quella voce. Vero. O Amendola, che riusciva a fare Stallone, Al Pacino, Robert De Niro, Hoffman. Ma non ti dava fastidio, non ti dava fastidio, anche se le voci erano completamente diverse dall'originale, perché poi insomma Giancarlo Giannini su Al Pacino è straordinario, e Corvo su Stallone è straordinario. Io cerco sempre di seguire l'attrice, capito? Per esempio anche Eva Green ha questo modo molto gotico di parlare, così molto, sempre molto giù di voce. Io cerco di seguirla. È quello. Deve parlare lei. Respirare con lei. Deve parlare lei. Se c'è qualcosa che non va, lo vedi subito. Certo, Domitilla. Essere a servizio. Domitilla è una bellissima donna anche alla luce. Ma quando c'è una donna così, al buio. Riconfermo il nostro innamoramento iniziale. Con chi sei stato ieri sera? Con Eva Green. Però dopo ho pomiciato con Emma Stone. Però la sera Kristen Dust è stata la più forte di tutti. Ma il lunedì non sono mai. Un'altra è Harley Quinn. Harley Quinn, sì, tutta gente bruttarella. Tutta gente con l'acqua. Giovanile. Tutte, sì. Alle Queen mi sono divertita tanto, per esempio. Che cosa ha fatto? Che cosa c'è? Suicide Squad. Ah, no? Suicide Squad è straordinario, l'hai fatto pazzesco. Alle Queen con Joker, anche lì, no? Supereroe, questa volta molto cattivo. È stato divertentissimo perché lei ha questo percorso. Prima è una psichiatra, quindi molto. E poi è lei la folle. E diventa pazza, capito? Sì. Il film è straordinario, diretto da Massimiliano Alto. Proprio in questi giorni è uscito in DVD e in Blu-ray, per cui vi consiglio. Di accaparrarvelo in qualche modo. Insomma, no, voi cinema vi piace? Vabbè, certo, voi vivendo a Parigi li vedete o doppiati in francese e non sono all'altezza dei doppiaggi italiani. Perché diciamola questa cosa. Ah, no, ma è così. Si doppia in tutto il mondo. Va bene, solamente magari a Parigi hanno più possibilità di farlo uscire in sale in versione originale. Solo questa è la differenza. Ma la differenza è che noi siamo i più bravi al mondo. È vero che scorre il band announce sotto? Loro doppiano in un'altra maniera. Non c'è il copione. Non hanno il copione come noi sull'leggio e vediamo il film a pezzetti, ma scorre proprio tipo i sottotitoli sullo schermo e tu devi andare a sync. Tipo karaoke. Lo sai che una volta ci ho provato? No, non mi piace. No, ma è impossibile. Da sentirsi male, ti viene il vomito, volta come... stomaco. Anche perché non vedi l'immagine, devi leggere, seguire la non scritta e non puoi vedere la faccia. Vabbè, pensa... tu e non pensi al testo. Sì, no, non se vuoi fare un'annotazione, vuoi scrivere una cosa, non lo puoi fare. Modo già un po' bisnocco, è anomalo davvero. A quel punto lasci i sottotitoli, la difficoltà è la stessa soprattutto per lascia noi quelli. Per cui voi che cinema preferisci, Axel? Ma a me, insomma, devo dire la verità, il cinema francese lo trovo molto francese è straordinario, levalo un'altra cosa in generale. No, è tutto quello che è intenso. No, ma riescono a fare delle collaborazioni incredibili, veramente interessanti. Dolan, che ne parlavamo prima, Xavier Dolan, l'hai fatto? È solo la fine del mondo quello che esce adesso? Sì, Léa Seydoux. Che bellissima. Ah, bellissima quell'attrice. È vero, ne parlavamo prima perché stavamo parlando Adele. La vita di Adele. Hai fatto anche la vita di Adele? Sì. Cosa non hai fatto? Solo per capire, così almeno ci non hai fatto regoliamo. John Wayne né l'uomo tranquillo di John Ford, quello non l'hai fatto. No, quello non l'ho fatto. Non hai fatto Marlene Dietrich nell'Angelo Azzurro? Non c'eri. Per ora no, non c'ero. Vediamo un po' se ridoppiano. No, vabbè, ma la vita di Adele è fortissimo. Sì, devo dire. Ricordo sensuale. Ancora al cinema l'imbarazzo, favoloso, sette minuti di scena. Sì. Beh, ragazzi, sette minuti. Per me sono durati pure troppo. Leggevo... Sì. No, allora, piano piano vedevi la gente davanti a te, no? Al cinema. Vedi che si muovevano le teste, le cose, no? Dopo un po' vedevi tutti sprofondati dentro le poltrone così. Quello è un film che devono vedere le donne. Mamma mia, però cioè, un uomo bello, che sensuale. Però ancora non ho capito. Che shish o che shish? Chiedilo a loro, che cos'è? Sarà Abdelaziz che shish. Credo che shish, però non vorrei. Che cos'è? Ma è una cosa da mangiare, un cognome? Cos'è? È il regista, no? Ah, che shish. Che ha scritto che chiche. Che chiche? Che chiche? Che shish. Però secondo me sarà che shish. Sì, sono di origine loro pakistana oppure chissà dove. E Dolan, no? Dolan? Xavier Dolan è straordinario. Mammy è stato il film internazionale che ha avuto più successo, che io vi consiglio, sapete, da questi microfoni a parte voce eccetera, vi consigliamo delle visioni di film intensi. Mammy è un film assolutamente da mangiare, duro, difficile, tre personaggi, pazzesco. Lui ha 27 anni, ha vinto due volte Cannes, è un ragazzino, esatto, è già 20 anni il suo primo film, Io ho ucciso mia madre, detto in francese perché è uscito adesso, l'altro film L'amour, eccetera, e poi Tom la ferma, purtroppo è arrivata l'altra ospite che dall'altra parte del vetro sta facendo dei gestacci che non è anche la nomino, non so chi sia, un'attrice, dice di essere molto famosa, ma vabbè, stacci di stima, vabbè. Ma guarda, è Francesca Reggiani, che insomma non so per quale motivo non ti... guarda, io sono un doppiatore e leggo le labiali, ma dall'altra parte del vetro vattene in giro, vai a prendere un caffè a Via del Corso, non ti voglio. E per cui questo Dolan è straordinario. Tom alla farm è un altro film bellissimo, poi L'esplosione con Mammy e adesso il consolidamento proprio con Juste la fin du monde. Vi ricordo che siamo a Piazza dell'Indipendenza. Place de l'Indipendance? No, vi odio profondamente. Alessia Navarro sarà felicissima perché lei è filo francese, per cui c'è un... ti piace? Si sta già un po' emozionando in realtà. No, l'altra settimana è entrata facendo il trenino con Mauro Meconi, che la Roma vinceva 2-0, hanno avuto questa botta goliardica. Adesso invece sono sull'eccitazione, sulla sensualità andante. Esatto, va bene. Ma perché invece della Diletta non hanno hackerato lo smartphone di Domitilla? E ci manda anche un bacio Alessio Cigliano, che è il nostro grande collega. Bacio, Pina Alessio. Domitilla, un saluto anche a Blanche. Bello, anche i colleghi. Grazie. Che ci ascoltano, mi piace questo fatto. Bello, che non hanno hackerato il tuo smartphone. Anche tu hai il tuo perché, ma cerchiamo una cosa da far leggere a Domitilla, scusate, col fatto che abbiamo già avuto ospite, sì certo, un anno e mezzo fa. Però tu hai anche doppiato, eri la bambina, la figlia di Mel Gibson in What Women Want. Che forte, troppo. Sì, dove lui sente i pensieri delle donne. Sì. Sentiamolo. Lo so che bisogna fare sesso quando c'è l'amore e quando è speciale, so tutto quanto. E mamma mi conosce bene, conosce i miei amici e conosce Cameron. Quindi lasciamo che certi discorsi me li faccia lei, d'accordo? E poi ho promesso a Cameron che la sera del ballo lo facciamo. Oddio. Comunque, non mi coinvolgere in questa idea di new look che a quanto pare ti sei messo in testa, va bene? Quale new look? Quale new look? Questo ridicolo nuovo Nick che vuoi diventare. Tutto un tratto ti metti a fare il buffone, a chiedermi perché non facciamo l'insalata insieme o non guardiamo la TV. No, dico, ti rendi conto? Dopo anni di rapporti zero. Beh, ma dai, tu di rapporti è meglio che non ne parli proprio. Quando mai hai avuto un rapporto autentico con qualcuno in vita tua? Senti, io ho un appuntamento con le mie amiche, quindi me ne vado, ok? Certo. Mamma mia. Quanti anni avevi qui? 15. Niente, la parola non ti è mai mancata, eh? No, 15 anni, sempre con Maglio. Maglio De Angelis, certo. No, e saluto tanto. Sì, c'è ancora attivo. Ultra ottantenne, ma sveglio. Meraviglioso. È straordinario. Vabbè, allora dico un piccolo aneddoto. In questo film, sì, nella scena finale dove lei è nel bagno e si sfoga come un'amata, oh, papà, mi ha trattato male il fidanzato, eccetera, eccetera. Io la prima volta ho messo tutti i fogli. Proprio ho messo tutti i fogli del copione, tutti uno di seguito all'altro. Normalmente uno legge un foglio, insomma, esatto, li ho messi tutti di seguito. Vai, ho visto una volta, ho inciso e mi ricordo la faccia di Fabio Benedetti, che era il fonico del tecnico del suono, sì. Che è rimasto così, buona la prima. Ma così è. Se tu riesci a respirare con l'attrice, con l'attore in quel caso, riesci ad andare con lui, col suo respiro, al suo modo, e ti lasci trasportare da quello che stai vedendo, da quello che hanno già fatto, è andata. Ricordo la faccia di Fabio, guarda. Sì. No, Fabio invece l'altra settimana mi ha detto: aspetta Pino, controlliamo un attimo se si dice scoprire o scroprire, come hai detto. Capito? Questo è stato Fabio. È più difficile. Sì, esatto, perché i nostri tecnici del doppiaggio ormai prendono in mano la situazione. Oppure detto, devo fare un personaggio, sto facendo un personaggio, e lui mi dice: guarda Pino, scopriremo che lui è un tossicodipendente al quinto rullo, non al primo, che non si capiva quello che avevo detto. Non riveliamo tutto subito. Esatto, questa è l'ironia dei nostri cari tecnici del suono, ma anche con voi immagino, con la musica, ovvio, c'è grande empatia con questo mondo. Fa parte della costruzione. A proposito, oggi è anche la festa di Gianni Morandi, che lo sto cercando, ma chissà in quale parte del mondo si è infilato, ma anche dell'Italia, non lo so, perché lui non risponde, poi sapete quanto è attivo sui social. E a proposito dei social, ricordate il nostro sito Facebook, dove non stiamo più facendo la diretta in questo momento perché è un po' complicato, però dall'anno prossimo ricominceremo con le dirette. Per chi vuole rimanere evocativamente attaccato alla radio, sentirà soltanto la radio. Chi vuole dare un volto ai nostri personaggi, insomma, qui c'è anche il suo perché. E si vede il video su Facebook. Comunque esistiamo, siamo lì. Signori, a tra pochissimo, Voice Anatomy. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Voice Anatomy. Eccoci, signori miei, 15 e 16. Adesso quasi 17, al mio fianco sempre Domitilla D'Amico, dall'altra parte vedo ci ha già raggiunto Francesca Reggiani, con la quale faremo un bellissimo percorso, e i Blanche dall'inizio in questa trasmissione, perché li volevo vicino a me, proprio perché non volevo veicolarli, io non è che faccio da talent e dico bevete quest'acqua, ve lo dice Pino Insegno, ma essendo rimasto molto colpito quando in Francia ascolto un gruppo italiano in una situazione interessante con un pubblico parigino che lo ascolta con grande intensità, dico ma perché io non li conosco, che c'ho tutto a casa, ho chiesto e li ho raggiunti. Dice siete in quel di Roma? No, ci veniamo, ci facciamo una passeggiata a Roma, meno male, insomma. Beh, per un'occasione del genere voglio dire sì, si prendono aerei, si sposta. Io ho detto c'è Domitilla D'Amico ed è disponibile. Cioè, esatto. E noi pronto, vocalmente, vocalmente io pubblicità. Però voglio il CD. Disco, certo, sì. Saremo felicissimi di disco firmato. Quando esce? In realtà noi abbiamo preso un percorso un po' parallelo alla discografia classica, nel senso che noi abbiamo fatto uscire un disco digitale, quindi un EP digitale su iTunes, e stiamo facendo un po' il percorso inverso a quello discografico, insomma, non firmando un vero e proprio volume, ma insomma pubblicando delle cose su internet e insomma, sì, so che non siete a favore dei social, lo racconta anche una canzone. Sì. No, siete a favore dei social di un certo tipo di comunicazione, sì. Ma alle scorciatoie da grandi. Sì, diciamo che sotto l'ombrello di Detesto, che è il brano di cui stai parlando. Sì, adesso lo ascoltiamo. L'essere social è inteso sicuramente come viene interpretato oggi il canale il social concorso, network. Concorso, facciamo sta gara. Esatto, l'essere social proprio anche a livello quelli che di relazioni, cantano una sola estate, vinci dato talent, e poi ti sfruttano bene per qualche mese e poi arrivederci, grazie. Ma invece il vostro percorso vuole essere il vostro lavoro. Insomma, sì, certo. Noi, sai, il lavoro di musicista è molto diverso dal lavoro che viene venduto in televisione, sono due percorsi veramente molto diversi e credo anche due messaggi molto diversi. Infatti il fatto che abbiamo la possibilità di venire qua a parlarne e insomma far conoscere il nostro lavoro per noi è importantissimo, anche perché in questo periodo le porte per chi fa musica sono aperte solo sul canale Talent, quasi nessuno più investe in musica. E almeno in Italia. E sì. Quindi, insomma, è sempre una bella occasione poter parlare. Fare breccia, certo. Anche esatto. Se poi insomma, è facile, no? Essere certo. Messi in evidenza quando c'è già un nome e un cognome. La cosa bella è scoprirlo. Certo. Anche comunque qualcuno. Diciamo che noi non è che odiamo i social media, alla fine facciamo tutto tramite. No, certo, non intendevo quello. E sono quelle altre tipo di scorciatoie. Anch'io amo la televisione, non amo la televisione delle scorciatoie. Esatto. Solo quello, vorrei fare l'attore tutta la vita, vorrei. Prima si trovava lavoro e c'era solo Rai 1 e noi riusciamo a lavorare il sabato sera come Allegra Brigata, eppure erano ospiti Walter Chiari, Bice Vanelli, tutti il quartetto c'era. Capito? Questa è cresciuta così bene per quello. Io ti vedevo sempre, perché poi tu a un certo punto hai fatto degli sketch prima dei film Disney. Sì, anche quello, sera da famiglia, sera quanto da famiglia. Mi piaceva da morire. E c'era Magalli vestito da grillo parlante. Sì, vabbè, ti ricordo. Ma quanti anni hai, scusami? 34. Solo? Sì. Ma non eravamo proprio tanti anni fa, più di 20 anni fa, questo, 25 bellissimo. Anni fa. Ho ancora il VHS, capito? Quelle registrazioni. Perché io non ce l'ho. Caro Pino, innanzitutto complimenti per la tua grande conduzione al Gran Canale, perché è stata una bellissima serata. Infine, che ti ha detto Mortensen al telefono? No, Viggo Mortensen all'epoca mi disse che era Viggo Mortensen, io non ci ho creduto, ho detto io sono Matt Dillon e io ho attaccato il telefono. Ma hai doppiato anche la bambina dell'esorcista? No, nel secondo, nell'esorcista l'eretico, nel 2, che era Linda già un po' Blair. Più grandicella. Sì, era nell'altro era Laura Betti, nel primo esorcista, la voce. Laura Betti, sì, la piccola, la bambina. La sì, bambina sì, perché sì. Era questa attrice pasoliniana, mamma che aveva una voce mia, pazzesca, la stessa cosa in America, un'altra attrice di quei livelli. Invece noi ci ascoltiamo proprio perché abbiamo aperto quel link del social, quest'altro pezzo che si intitola, Axel? Detesto. Ascoltiamo anche questo, ha un motivo reiterante, ossessivo, anche qui musica elettronica, un mantra, ma è molto interessante, ascoltiamolo. L'armonizzazione, c'è tutto, c'è tutto. Ragazzi, c'è detesto tutto. Essere social. Meraviglioso. Non è male. No, va ascoltato, perché anch'io quando sono uscito a sentire la prima volta vedevo, ero trasportato dal trasporto degli altri per cercare di capirla. Poi ovviamente la sentivo su grandi casse, con grande confusione, eccetera. Poi l'ho ascoltata meglio, piano piano entra dentro e c'è uno studio non indifferente. Ragazzi. Poi non esiste, sai che tipo di musica è, ti piace o non ti piace? Sta voce sì, ti piace arriva, o non ti arriva piace? Tantissimo, fine, non è che, arriva tantissimo. Cioè, ringraziamo moltissimo. Sì. No, io vi auguro veramente. Farete un live per presentare anche sì, questo EP? Sì, nel 2017 avremo delle date in Italia e appena insomma saranno confermate in corsa. Hai capito, vi faremo sapere. Vai. Pure noi abbiamo delle date in Italia solo a Roma. Solo a Roma? Noi abbiamo delle date a Via dei Medaglie d'Oro, 3 turni. Esatto, vai. Piazza Re di Roma, 2 turni. Questo ci abbiamo, mi di. Ma veniamo a fare il gruppo spalla. E questa, santa miseria, è la nostra vita questa qui. Tua figlia si chiama Charlotte. Sì, Charlotte. Ciao Charlotte. Un figlio, Francesco Dante. Ma quale Dante? Ma chi è Dante? Ma perché? Questa è Alessia Navarro. Ma che c'entra Alessia? Ah no, è Mauro Meconi, sta qua. Capito, l'hanno scritto, sono sbagliati. Invece si chiama Francesco. Punto. Esatto, non Petrarca né Dante. Francesco. Vabbè, perché io mi chiamo Pino, sai, Pino Byron. Byron. Sì, il secondo nome è Byron. Ah, è figo. Mi piace. Byron. È il tuo lato lord. Sì, il mio lato quello sì. Un po' così, un po' poeta un po maledetto. Mi piacerebbe essere un poeta maledetto. Mi faccio di Assenzio. L'assenzio è il terzo occhio dei poeti. Per i gargarismi, però. Sì, solo per i gargarismi. L'assenzio. Che Verlaine poi non ho mai Rimbaud. L'hai visto Poeti dall'Inferno? Sì, non era Pezzulli lì, però. No. C'era Leonardo DiCaprio. No, lì era però Alessandro Tiberi. Penso. Sì, bravissimo anche Alessandro. Bello. Sì, era soprattutto Leonardo DiCaprio per i più, insomma, si sa. Poeti dell'inferno è bellissimo, questo molto, rapporto molto epistolare bello. Carnale fra questi poeti maledetti. Devo dire però la storia di questi poeti come dei grandi musicisti maledetti eccetera è bella per noi, per chi l'ha vissuta. Non credo sia stato così affascinante vivere quei momenti. Noi siamo affascinati dalla vita maledetta di Amy Winehouse piuttosto che di Kurt Cobain, certo, perché di questa gente, di Jimi Hendrix, di Janis Joplin eccetera. Loro si sono divertiti così tanto. Ma... Che ti devo dire? Però per la buona domanda è se l'essere maledetti li ha realmente resi più creativi oppure sì. Se sia è vero, una conseguenza una o meno. Però... Lo spleen effettivamente serve. Esatto. Cioè sì, una sofferenza di cioè, fondo sì, ci deve essere, sì. Però ecco, magari sì, anche sì. Contenuta. Però magari ci affascina, 27. Ma poi alla fine questi sì, sì, l'hanno consumato prima la loro vita, ma l'hanno vissuta intensamente. Hanno vissuto in 27 anni quello che una persona normale vive forse in 112. Per cui... sicuramente Jim Morrison dice ma dai quanti anni ci aveva qui Amy Winehouse quando ha fatto 19 capito era già stanca quando le ha scritte più che altro perché... sì ma questa è come la battuta di Woody Allen farfalle vivono 24 ore e il pomeriggio hanno già le palle piene cioè... capito diventa quanto ti dura il tempo la vita è tutto in prospettiva certo. Perché nella nostra vita 80 anni sono 80 anni vissuti in un modo una persona è intensa insomma però vabbè come dice Woody Allen anche lì sì, Marx è morto Marlon Brando è morto Dio eccetera ma perché sono ancora vivo io perché si considera tanto dice, eccetera no se le persone importanti se ne sono già andate però è vero questa maledizione dei 27 anni è pazzesca quanti meno sono meno male tantissimo. Che l'ho superata è vero meno male devo dire però non sono maledetto non siamo maledetti serve un po' di un pochino un po' dai, di sana un maledizione po sì, dai, sì. Voi siete rock no, siete ma noi, musicisti noi i 27 li abbiamo passati quindi già ci siamo stretti la mano secondo me Pino sai 28, tutti i pulitini vedi come sono ma chi sa che nascondono ma non ti fare ingannare dalle apparenze infatti non mi ingannate no vendono roba buona ci vediamo tra pochissimo cioè ci sentiamo tra poco con Voice Anatomy a tra poco Voice Anatomy. Eccoci, bentornati signori miei, le 15.32, Voice Anatomy. La trasmissione si sta arricchendo sempre di più, a parte i nostri amici Blanche che dall'inizio ci stanno facendo compagnia, visto il grande successo in Francia. Bisogna assolutamente cominciare a veicolare in Italia queste straordinarie voci, queste straordinarie intuizioni e grande professionalità musicale. Domitilla D'Amico ha aperto la qui. Nostra trasmissione e ci ha raggiunto Francesca Reggiani. Buongiorno, salve. Vi ho sentito una mezz'oretta da casa mia qua. E adesso mi trovo qua. Una che su, come hai detto prima, tuo malgrado ti trovi a lavorare con la voce. Tuo malgrado, vero? No, nel senso, io dunque di doppiaggio, siccome voi molto parlate di doppiaggio. Beh, l'apertura allo startup della trasmissione è sempre veicolare il doppiaggio. Io sono abbastanza negata. Proprio di quelle che proprio non beccano il sync, non c'è anche niente su te, da fare. Soprattutto su te stessa. Perché su me quelle. Stessa anche, ci è vuole più difficile. Signore che viene lì, mi fa così sul braccio, mi dice quando tocca a me, che poi si vede benissimo che sarebbe il mio momento. È più difficile, il doppiaggio ci vuole un talento particolare. Quindi, però, naturalmente, facendo l'attrice, dicevo, beh. Pino... Io Domitilla. Mi trovo mio malgrado, Domitilla, esatto, a fare questo mese. Perché? Perché abbiamo a un certo punto capito che naturalmente se una ha anche un talento imitatorio, che io non supponevo, il pubblico ci sta. Come fa Crozza, come grandissimo Guzzanti e tutti quanti. La Ferilli è brava, secondo te? A Ferilli mutte vengo ad ammuzzi con testa da quanto mi piaci, tu sai. Mi sta simpatico, poi c'ho l'occhiale e mi riverbero tutta. Mi fa un po' sesso, scusa. Tu il doppiaggio Sabrina l'hai mai fatto, no? Non fatto. Cosa? Doppiaggio l'hai mai fatto, Sabrina? Ah, cioè, sono pure un po' lenta a quest'ora del pomeriggio. Beh, ma io faccio di tutto, faccio radio, televisione, faccio molto cinema. Sì. Sono attrice a 360 gradi, naturalmente, che cosa te devo dire? Sì, me doppio pure. Sono una anche ironica, diciamo così. Qualcuno certo. Ha detto pure a seconda Magnani, io direi a quarta. Ah. Grande. sì, tanto che non faccio la Ferilli, che invece saluto, che è una grandissima interprete. Ma è ironica. Ma poi soprattutto quando imiti una persona, dico che quella persona è forte. Me la suggerirono per la posta del cuore, che era un programma della Guzzanti tanti anni fa su Rai 2. E incominciai a fare. Perché? Perché naturalmente andava in onda, si sentiva continuamente anche al telegiornale, c'era l'opinione della Ferilli vera, e quindi ci venne in mente di parodiarla. Beh, di trasmissioni importanti a fatte, mi ha dato molto, sì. Adesso, per farti far capire anche, come sempre, l'importanza della voce, che può fare tutto con la voce, adesso Domitilla D'Amico leggerà qualcosa di particolare, come se fosse un film importantissimo, magari accompagnato anche con la degna colonna sonora. Scopriremo di cosa parla con la sua voce. Prego. Lei non lo sa, lo sta tirando, gliel'abbiamo dato adesso il foglietto. Le mensole in casa non sono mai troppe. Non c'è locale in cui se ne possa fare a meno. In cucina per riporre utensili e barattoli, in soggiorno per libri e soprammobili, in bagno per prodotti da toilette, nella cameretta dei bambini per i giocattoli. Avere una certa dimestichezza con viti e trapano può di certo risultare utile qualora ci sia bisogno di aggiungerne di nuove in casa. Ci sono diversi modi per fissare una mensola. Con sistemi fissi, regolabili, a incasso. Tutti i sistemi che richiedono il fissaggio di un supporto a parete. Quelli che utilizzano montanti regolabili hanno il pregio di una maggiore flessibilità, perché le mensole possono essere spostate a piacimento. Quelli fissi, tuttavia, hanno dalla loro una migliore resa sotto il profilo estetico. I sistemi regolabili sono formati da cremagliere in alluminio naturale o laccato, sulle quali vengono fissate delle zanche di diverse misure, a seconda dei ripiani che devono reggere. Questi possono essere in legno, metallo o in vetro. Le mensole fisse si poggiano invece su delle zanche a L, oppure, nel caso in cui siano inserite in nicchie, su supporti in legno. Una meraviglia. Questo è Boys Anatomy, questo è l'esempio che state dando, soprattutto era il voi due. Dell'Ikea, tra l'altro. Sì, ma, ma questo, come dicevano, no, Francesca Di Gasma poteva leggere l'elenco del telefono e assumere un'importanza. Lo ha fatto certo, da noi. Il menù, come il menù. Il menù perché era incuriosito, o forse ci si è messo Alessandro di mezzo. Sì. E le analisi del venne ad avanzi un paio di puntate straordinarie. Sì, e le analisi del sangue sì, dette da lui e questo, sì, esatto, questo era un bel periodo divertente. Era un periodo di visione, ma ne parleremo. Abbiamo in telefono invece un'altra grandissima collega, oggi al femminile, ma neanche fosse circondato, un'altra con l'Empals. Sì, ma con gente con l'Empals io sono felice di essere circondato con la gente che ha un po' d'Empals. Marisa Laurito, Marisella, ci sei? Salve, buongiorno, ho la mia voce è diventata rocchissima. Perché? Che hai fatto? Perché mi è venuto mal di gola e mal d'orecchie, naturalmente, proprio mentre sto facendo lo spettacolo. Esatto, perché io ti chiamavo e tu anche perché tu sei venuto ospite. È sempre così, no? È così, ma è quello perché quando uno si rilassa, gli anticorpi, cioè ti abbassi le difese immunitarie, dici tanto sono arrivata, domani parto, molli e esce il bubone. Non bisogna mollare mai. Anche ma perché io veramente non mollo mai. Lo so, però così, fa freddo, Perché però sì, un po' di freddo, un po' anche di stanchezza, perché come puoi immaginare le prime sono molto faticose. Sì, fammi ricordare passiamo dove sei, tutto. Fammi ricordare dal allora 6 dicembre. Siamo alla sala Umberto. Lo dico io, dai. Dai, che c'ho più voce, ho più voce. Tu stai in scena con Sud and South, Amici per la pelle, in concerto con Charlie Cannon, grandissimo cantante nero, black, soul, straordinario. Bellissimo. Che dopo Napoli e Toronto, perché questo ha fatto Marisella, Napoli e Toronto, ha debuttato a Roma il 6 dicembre al Teatro San Umberto, dove resterai in scena fino a domenica 18, ospedale permettendo. Se tu continui così, no? Ospedale permettendo per niente, perché comunque faccio lo spettacolo, ed è uno spettacolo bellissimo, dove ci si commuove, si parla delle differenze fra il nord e il sud, si cantano canzoni meravigliose di tutto il sud del mondo e ci si diverte moltissimo. Ma perché sicuro. Non ci crederai, ma faccio ridere. Ma come non ci crederai, Marisa? Francesca Reggiani, tu senti che dice a Laurito, non ci crederai, ma fa ridere. Cioè, una donna, ma io ci credo e ci anzi credi? Sono stimolata ad andare a vederla. Ma quello sì, ma anche che il teatro è molto bello. Sarebbe per me un regalo averti, perché sai che abbiamo una grande situazione. simpatia, sì, e un grande affetto, sì, e stima. Lei è una grandissima donna e sono molto contenta. Scusa, ma Marisa, perché sono io invece appena quasi sveglia, diciamo. Beh, fino a quando va in scena? Fino al 18. Fino al 18. Vedi, Pino, che l'hai detto bene, l'hai, certo, detto con molta grinta, perché lei è stata molto attenta. Esatto, ma io te lo faccio dire pure a Domitilla D'Amico, che è la voce più importante che abbiamo. Fino a quando, Domitilla? Fino al 18. Fino al 18, Sala Umberto, Marisa Laurito, grandissima. Lo sai che Marisa Laurito ha una voce molto, mi ricorda molto Fellini, ha una voce felliniana. C'hai una voce felliniana, sì, Laurito? Sì, perché sai, sono quelle voci rauche, anche molto sexy. Ma guarda, hai capito, una pronuncia molto bella, ma c'è la R francese, Casi Blanca, Roy Blanche, hai sentito Laurito? È stata, sai, in fatto così di talenti imitatori. Mi ricordo Cinzia Leone, che è una mia collega, beh, sì, bravissima, è uno dei personaggi vincenti, ma che fece, fu proprio Marisella. Bravissima. No, infatti la cosa che è più, la cosa più importante del mondo, quando sei preso in giro, imitato, vuol dire che insomma sei arrivato da qualche parte, E soprattutto, come dice Buon Compagni, sempre meglio essere piuttosto che imitare. Vabbè, ma io mica me la son presa. Ma insomma, tu non sei solo un'imitatrice, insomma, assolutamente come... Marisa non è solo un'intrattenitrice, ma anche. Ma tu devi sapere che Marisa, io sono a vedere anche la mostra, perché questa è. Cioè, la mostra personale. Quadri? Eclettica. Ma no, è eclettica, perché dal 4 novembre c'ha la sua personale, la mostra dal titolo Radici Squadrate. All'interno della kermesse di Artissima 2016 a Torino, fino al 21 gennaio. Espone. Andate a vedere alla Galleria Narciso fino al 25 gennaio, anche quella è andata molto bene, ma insomma io credo, ragazzi, che l'arte non vada, come dire, etichettata. L'arte deve esplodere, la creatività deve esplodere laddove vuole, c'è poco da fare. Ma tu chi sei? Da grande che vuoi fare, Marisella? Io voglio fare l'artista. Non ci crederai, ma è così. Non ci posso credere. Però per 95 anni, per i miei 95 anni è un progetto, perché sai che dei medici americani dicono, sì, che se c'è una grande progettualità non si invecchia mai e si rimane sempre molto giovani. E io ho un progetto per i miei 95 anni fantastico. Sì, che vuoi fare, Marisella? Voglio fare la pornostar. No! Vuole fare la pornostar a 95 anni. Sì, Marisa, secondo me sarebbe molto. Si chiamava Pino quel bellissimo film con la ex moglie di Mick Jagger. Faceva pornostar, che Linda Lovelace, cioè, comunque, no, non proprio pornostar, ma insomma comunque adesso mi verrà in mente non soft porno, proprio porno, quella vero, lì che c'aveva tutti i buchi nella parete, che quelli lì si chiama Gloriole, i buchi nella parete sono i Gloriole si chiamano. Adesso ve lo dico io, perché poi c'è Alessia che è sveglissima e sicuramente ce lo cerca. Senti, ma insomma, ti vuoi fare ma il tuo partner maschile, vuoi andare a pescarli fra i nostri Franco 30 Lance, vero, così freddi ormai? Ma non lo so se ho voglia di avere anche un partner maschile. Forse mi posso sentire anche da sola, è abbastanza originale anche da sola, se no mi dovrei accontentare magari un giovane un po' troppo, uno vecchio, anziano, diciamo, per amor di Dio, maturo. No, forse da sola. Da sola per cui dell'autoerotismo. Va bene, Marisa, è bellissima. Questo è un augurio che ci facciamo, vuol dire che siamo arrivati a 95 forse anni. Jerry Hall. Maria Faithful. Jerry Hall si chiama Alex di Mick Jagger. No, comunque, no, quella insieme, ancora prima. Insieme io e te, Marisella, non so che diventa un film comico, però davvero un carino. Spogliato, sono caratterista comico, poi anch'io spogliato, diciamo che ho cominciato doppiando i film porno e quello è abbastanza. Ragazzi, non ha 90 anni. No, vabbè, ma invece non è importante. La prima moglie di la prima moglie di Mick Jagger, Bianca Jagger, ha fatto un film 8 anni fa, cioè l'altro ieri. Se ne sono sposati 12 di donne questi, ma sì, comunque. Esatto, vabbè. Che faceva la porno star anzianissima e andava, vabbè, per la maggiore. Una extra MILF. Vabbè, piaceva tantissimo. Una cougar. Ne sa più lei. Un film famosissimo. Marisella, ti auguro ogni bene, tanto di un buon Natale. Ragazzi, grazie. Venitemi a trovare a teatro, che sono volentieri, felicissima. Venite tutti quanti, sud and south, emozioni, divertimento e musica meravigliosa. con un terzo tempo dove tu già darai un piccolo anticipo di quello che vorrei fare a 95 anni, vero? Esatto. Vengo lì, vengo solo al terzo tempo. Grazie. Ciao Marisa. Un bocca al lupo, tanta merda, come si dice da noi. Esatto. Va bene, allora noi ci... Che c'è la pausa del, del GR? Ancora no. Va bene, allora tra pochissimo, un minuto, due minuti, e siamo di nuovo con voi, con tutto il gruppo di ospiti. A tra poco. Voice Anatomy. Eccoci signori miei, tornati 15:46 primi e 40 secondi in compagnia di Domitilla D'Amico, i nostri amici Blanche, Axel e Ruben che sono qui, e ci ascolteremo altri brani tratti da questo EP che sta già su iTunes. Allora, assolutamente, sì, sì. iTunes, Spotify, insomma su tutte, la distribuzione digitale reperibile, e poi insomma come sapete, canale, YouTube, cara Francesca Facebook. Reggiani stanno avendo un grande successo d'Oltralpe, noi, e sono italiani, insomma è giusto che lavorando con la voce in questo modo, in questa grande professionalità, è giusto insomma tornare anche un po' di qua, non soltanto avere successo di là. Non cioè, c'è no? dubbio, però è anche una cosa importante avere successo di là. Assolutamente. Sì, io mi sono sempre chiesta, chissà come sarebbe avere, cioè interessante come cosa, no? Reggiani, anche... il tuo cognome poi è molto francese. È molto francese perché c'è Serge Reggiani. Reggiani, esatto, che era del paese di mio nonno, quindi chi lo sa. Sai, sono quattro anime lì a Nonantola verso Modena, però no, senza però. Cioè lui ha avuto sì, un grandissimo successo. È bello misurarsi con un'altra cultura, un altro paese. Sono culture più attente alla loro cultura e alla cultura degli altri. Noi ce lo stiamo un po' dimenticando, l'abbiamo detto anche all'inizio, insomma non è giusto che questo paese non dia delle possibilità. Per esempio, parlando di te, tu hai vissuto una televisione bellissima, cioè gli anni, fine anni 80, c'è stata un'intuizione sì, straordinaria. Sentivo in radio che eravate imbarazzati a dire l'età, quindi giocavano ad essere imbarazzati giocavate. Oh, esatto. No, io invece trovo che insomma la vedo come anche un bell'obiettivo. È vero, la prima TV delle ragazze, io 89, vengo dal gruppo, no? Che bravo, cos'era? Pino. 89. Sì, sì, no, questa però è Alessia che secondo è me ti dà tutte le autrice, dritte, perché vabbè, è un'autrice molto intelligente e molto svelta. Però io lo vedevo, ecco, a differenza magari di Alessia che è un po' più giovane, certo. Io ho vissuto quell'inizio straordinario di questo gruppo di autrici, attrici e anche attori, che poi sono entrati anche i maschi e così. Io al tempo volevo fare l'attrice anche drammatica come tanti di noi, no? Certo, così. Certo, e mi ricordo questo fatto che invece poi quando mi presero la TV della ragazza, ho l'imbarazzo di dire, però sai, la televisione veniva sempre considerata come un genere un po' di scarto? No, di scarto, ma insomma di certo, insomma un attore di cinema è un'altra cosa, e poi certo. Per fortuna adesso si è mischiato tutto, però diciamo quando ho iniziato io era così, però l'ho accettata invece molto molto volentieri. A volte ho la sensazione di aver preso un treno importante, l'ultimo treno. Vagone, un bellissimo sì, treno. Sì, veramente il primo e ultimo vagone, nel senso che una televisione del genere, poi soprattutto fatta da donne, poi la donna comica, e non è mai stata accettata facilmente, sdoganare, cioè un attore comico può fare il gay, l'ubriaco, quello, è sempre far ridere. Una donna che fa le stesse cose non fa ridere. Culturalmente c'è un freno, no? Sì, devi come essere anche brutta. Sottolineò Jerry Lewis. Sì, più volte ha sottolineato: le donne comunque non fanno ridere. Io in questo ho una visione un po' crucianiana, visto che mi trovo seduta su una sedia nella sua radio. Io sono per le persone, quindi ci sono delle donne che mi fanno anche molto ridere, alcune per niente, così come gli uomini. Certo, l'uomo per esempio è un one man show nello show, può fare di più. È sdoganato. E noi pian piano. Secondo te, tu rendi simpatico chi stai imitando, o è quello che stai imitando che rende simpatico chi lo sta imitando? Cioè, certe volte c'è questo matrimonio particolare, cioè imito una persona simpatica che rende più simpatico te, o sei te che rendi più simpatico l'imitato? Cioè, una cosa perché tu hai seguito troppo Marzullo sì, Fazio anche. Non esci vivo da questa, comunque. Questa non l'ha scritta Alessia Navarro, questa no, è la mia. Profonda, è una mia. È una mia. Se capisci l'italiano che ho cercato di infilare in mezzo a questa costruzione sintattica. Noi abbiamo sempre cercato di fare dei personaggi che parlassero di alcuni di attualità. e l'attualità del momento. Questa era la motivazione con la quale sceglievamo ognuno di noi il proprio personaggio. E sicuramente c'è una parte di critica, virgolette, quando tu fai il personaggio, e una parte di simpatia, di affetto, cioè diventa quasi qualcosa di... Ma quale sei più affezionata? Di... Tu c'hai Ferilli, Loren, Panietti, Carla Bruni, Enrico Ghezzi. Veramente. Enrico Ghezzi. Luci, stacco, buio. Era una cosa... Antonioni, il massimo genio dell'incomprensibilità, a parte me. No, adesso non c'ho voce, appunto, tanto per... Federica Sciarelli, Marta Flavi, Elisabetta Sciarelli mi piace molto oggi. Vero. Beh, no, Sciarelli mi piace, beh, innanzitutto perché nell'ambito della debacle degli ascolti televisivi, gli unici programmi che vanno bene sono questi che hanno il fil rouge del giallo, no? Sì, vero, ecco, Federica. Quindi io ancora mi chiedo come riesco a fare il 15-18% con un programma in un mondo dove tutti vogliono apparire, con un programma dove la gente sparisce. Me dai pizzichi da sola. E questa è l'analisi critica che fa ridere. Non cioè, c'è dubbio. Racconti non che c'è poi dubbio. E anche la caratterizzazione, perché l'imitazione può essere anche bella soltanto la caratterizzazione del il carattere di quel personaggio, raccontarlo. Sei piena d'appunti, Francesca. Ma queste, guarda, ci sarebbe un goccio d'acqua? Come no? L'importante poi si può anche fare un goccio d'acqua. Sì, non sono piena di appunti. Sono, intanto, io di un disordine micidiale. Tu sei in scena adesso, che no? Che denota ordine mentale. Io sto andando in onda con Movie Mag. Sì. Magazine di movie su Rai Movie, tutto movie, appunto, tutto esatto. Movie, che è un canale piccolino della Rai, quindi è mia contentezza così di far parte di questo programma che va tutti i mercoledì verso le 11 e poi in replica il giorno dopo di notte su Rai 1, su Rai 1, e lì mi danno carta bianca per fare, grazie, dei personaggi XY. Vabbè, per adesso ho fatto Vittorino Andreoli, lo psichiatra che come prima regola di vita ha il concime sulle ciglia, infatti va in giro con un paio di sopracciglia, per cui dice quando io vado al cinematografo io mi siedo, perché loro vogliono sempre andare al cinematografo, e poi da dietro si sente sempre qualcuno che dice abbassa le ciglia. Come leve del cappello più o meno. Sì, esattamente. Succede quello. No, ma dopo mi piace che tu possa fare un paio di... I peli vanno coltivati, non è vero? Sono colti, fanno cultura. Il cinema è cultura. Ergo, un uomo senza peli è come un film senza pellicola. Vedete come tutto torna al cinema. Quindi ci divertiamo un po' con anche i miei autori, che sono Walter Lugo, Gianluca Giuliarelli, che sono grandi. Sì. Beh, tu sei sempre stata circondata da bravissimi autori. Quando avete cominciato i punti, ragazzi, circondata, insomma, ce ne ho due, me li tengo con le unghie e con i denti, perché giustamente anche loro poi collaborano con altri artisti, all'epoca, altri insomma, attori. Anche con Amurri, Brunetta e Dandini, un bel triunvirato di amiche, di grandi professioniste, perché lì poi c'è stato un trittico di trasmissioni. Dopo la TV delle ragazze, avanzi tunnel. Poi proseguite una parte Disoccupati, l'altra Pippo Kennedy, eccetera, eccetera. Insomma, eccetera. Sono stati veramente i tormentoni più importanti della televisione comica, divertente, ironica, graffiante, satirica. Insomma, c'era, poi c'era Rai 3, che era, con quella ha fatto un salto in avanti. Quasi tutte, come intanto salutiamo l'ex direttore Angelo Guglielmi, che ogni tanto ci incontriamo, storico, insomma, con piacere, come lui stesso ha piacere di dire, anche Bruno Voglini, che era un dirigente. Erano direttori artistici, questi erano. Sì, cioè, venivano in studio. Andavano a teatro. Oddio, questo non lo so. Sì, vedevano gli spettacoli, sì. Conoscevano gli attori, pensa, è incredibile. Sì, sì, conoscevano i produttori musicali, sentivano i concerti, sentivano i concerti di giovani. Tempi, a loro piaceva molto questo fatto qua. Tantissime trasmissioni, da Fazio a artisti, diciamo, attori, da Fazio a Chiambretti, a noi stessi, ad Augias, a Enrico Ghezzi, tutti quanti vengono da quella fucina lì, da quel vivaio. Come direbbe Andreoli, il vivaio! C'è la qua Andreoli adesso. Ciao! Con Andreoli, che ha delle sopracciglia fantastiche, siccome ho girato parecchi sketch per Movie Mag con Vittorino Andreoli, e è rimasto vicino. Mi è rimasto vicino, l'ho girato l'altro ieri. Senti, dobbiamo andare, adesso c'è il GR? adesso me lo fai, scegli tu una Loren, una Parietti, una Carla Bruni, allora, che mi dà la, via, la linea al GR e poi torniamo. Allora, guarda, io sono visto che loro vengono dalla Francia, è vero, io sono felice di dirvi che invece ogni tanto ho piacere dalla Francia di tornare in Italia. Se qualcuno mi chiede è felice in Francia o le manca qualcosa dell'Italia, io rispondo dell'Italia mi manca tutto, per questo sono felice. Allora, a tra poco con questa bella carovana di grandi artisti e Francesca Reggiani sulla locomotiva. E Pino Insegno, Domitila, sì, tutti quanti. Domitila, tutti, ma loro li sto nominando dall'inizio. Per me, ecco. Io sono proprio una bella squadra rapita, oggi. Rapita. A tra poco. Poi, se siete buoni, vi faccio Angelica. Dopo ci fai tutto, ci fai anche il monologo. Angelica detta Mascia, è il diminutivo de Mascia. De Mascia chi? No, Mascia è il nome, io mi chiamo Angelica, che poi sarebbe il diminutivo di Mascia, Mascia, e voglio fare mondo dello spettacolo nella vita. A tra poco con Boys Anatomy, dopo il GR, a tra poco. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. Voice Anatomy. Signori miei, eccoci, bentornati a Voice Anatomy. Siamo qui in compagnia di un, come si dice, piatto ricco, amici ficco, amici miei, circondato da grandi professionisti, Domitilla D'Amico, Francesca Reggiani e gli straordinari Blanche. Abbiamo ascoltato due brani del vostro EP, già disponibile su Spotify, ovviamente su iTunes, eccetera. Ci ascoltiamo un altro brano dei vostri. Quale vogliamo ascoltare? Chi? Quale brano? Se vogliamo lanciare qui. Sì, scusa, allora, scusami. A me piacciono sti ragazzi qui. Sono bravi, È corretto? Sì. Allora, cosa ci fate sentire oggi? Loro che amano. E facciamo sentire un brano che si chiama, intitolato Chi? Chi? Chi? Va chi? Bene, allora, chi? Vai. Beh, va bene così? Va bene, grazie. È essenziale, questo è Chi? Stupendamente bella, inaccessibile, selvaggia. Ad ogni passo aprì uno scorcio, non respiro più. Perennemente intensa, fiato, mozzo e bocca aperta. Che ogni viaggio attraverso te si fa in aprea, ti si fa in aprea. Vesti la decadenza con un'eleganza da regina, oh mia. Resti la città eterna che non ti addomestichi, non mai, mai. Chi sei? Tu chi sei? Per scatenare istinti mai miei. Chi sei? Tu chi sei? Per scatenare istinti mai miei. Terribilmente ostile, intricatissima e ribelle. Contraddizione aggiunge un chiaro oscuro in più. Sfacciatamente immensa, strati d'epoca mosaico. Si può amarti, odiarti, non capirti o perdersi, perdersi in te. Accoglimi madre eterna, mia speranza non tradirmi mai. Go. per scatenare istinti mai miei. Hai capito? Sì, no, no, avevi ragione. La più appropriata è interessante. Che questo brano è dedicato a Roma, quindi devi dire subito. Fare il beh, ma senti, non ho saputo resistere. Il poeta è vivente. Perché... Però è vero, c'è un po' di orme, come dicevi, hai detto prima. È vero, nella c'è prima un po' di orme, quel... un po' di EPFM. Grazie, le ispirazioni sono tante. Esatto, quello volevo chiedere. Siete un po' figli di tutto quello che avete sentito. Siamo un po', diciamo, un po' che rubiamo a destra e a sinistra. Un po' di banco. Certo, vero, banco, beh, ovviamente. È tutto il progressive degli anni 70. C'è, c'è molto vero. Italia di quegli anni e c'è molto estero comunque, perché essendo, sì, poi c'è la musica elettronica. Formati fuori. Scusa, estro? Estero, nel senso estero. Che anche estero, insomma, anche estero, anche estero. Anche estero, però soprattutto estero, perché appunto vivendo a Parigi e essendo esposti, siete contaminati. Siamo contaminati, insomma. Cosa ascoltate di solito? Vai, pezzo dei Blanche. Ma i Blanche di musica. Solito. La nostra musica e basta. Non c'è nient'altro che meriti alla fine. No, no, no, abbiamo le nostre ispirazioni sono tante, cioè sicuramente e sono molto diverse tra di noi. Sono molto diverse, per me il rock inglese, io sono almeno io personalmente mi sono formato con tutto il percorso Damien Rice, insomma, quella cosa, Damien. 3000 sigarette, chitarre Rice. Spaccate. Damien Rice è straordinario. Ma questo irlandese cos'è? Sì, lui è irlandese. Sì. Ma senti la Reggianie, Reggianie c'è pizzica, eh? Ammazza, infatti. Sul pezzo. Attenzione. Beh, ma noi veniamo da una generazione, non abbiamo sentito, siamo nati con la musica, quella no, bella, quella vera. Soprattutto andiamo avanti e esatto. A me piace informarmi, sentire, vedere. Assolutamente, cioè, sì, adesso a me. Per carità, non è che voglio una medaglia per quello, però no, abbastanza, no. Insomma, come anche Pino, cioè. Beh, no, io non mi fermo assolutamente sulla musica, sento tutto e mi piace tutto. Da Damien Rice lo scoprì in questo pezzo di Zero O, come sì, si intitola quell'album che fu la colonna sonora di Closer, e quello mi ha rovinato, perché quando lo sentivo io non era ancora colonna sonora di niente. Anche io, sai, quando poi l'ho sentito su Closer è stato lui e Lisa Cunningham insieme, sì, che poi sì. E poi vabbè, insomma, quella è la mia parte, a parte Ruben però c'è molta roba più antica dentro questi pezzi, sì. Come ma noi diciamo siamo prima anime con antiche, Francesca, noi siamo anime antiche, c'è dentro quel progressive che insomma ha fatto parte e caratterizzato sì. Tutta l'Europa di quel periodo, ma c'era storico. Un'attenzione, cioè noi abbiamo sì. Nel lavoro sulla nostra musica abbiamo cercato veramente di portare al centro il lavoro, cioè l'approccio che comunque soprattutto insomma, in una musica di sforzo veniva applicato, quindi anche il tempo necessario, insomma, noi abbiamo passato tempo a produrre la nostra musica, a scriverla, quindi insomma. Senza scorciatoie, non c'è nessuna scorciatoia, no, in Francia. Vi hanno sentito, vi hanno ascoltato, vi hanno amato. Ma nel lavoro non ci sono scorciatoie. Vi esibirete, quindi... vi esibite qui? Quest'anno, sì, quest'anno, sì? Insomma, appena, dicevamo prima, appena verranno ufficializzate le date, lo diremo, però nel 2017 suoneremo in Italia. Bellissimo, quindi... bello. Già lo fate siamo in molto Francia? Sì, sì, capita sì, di sì, in Francia sì, e ovviamente il nostro obiettivo comunque è portare il nostro lavoro qua, essendo innanzitutto la nostra patria e poi comunque la nostra lingua, ecco, cioè... Beh, c'è dubbio, poi comunque un concerto live è bello. È molto live, la vostra musica sì, si presta il fianco. Nasce live, per essere espressa poi in live. Ecco. Invece sentiamo live un pezzo che abbiamo lasciato indietro della nostra amica Domitilla Amico, sempre Scarlett Johansson, nella verità, e che non gli piace abbastanza. Dove tu sei, come sempre, Scarlett Johansson. Scarlett. Sei più sexy tu di Scarlett. Ma sei molto carino. Lei ma... la inquadrano giusta. La inquadrano giusta lei. Sai che sono fatto della voce così, in effetti lei poi è una bellissima donna, è una bellissima voce, ma mi ricordo quando Alcatraz, ti ricordi Alcatraz, quel sì, grandissimo successo radiofonico, sì, sì, sì. Per cui che capito bello, c'era lui aveva è bellissimo, un saluto che... a Diego Cuggia e anche Roberto Pedicini. E Roberto Jack Pedicini Folla. Che sì, fantastico. Io ho tutte le mie amiche che volevano conoscere appunto Pedicini tutti. Perché No, lascialo così nel ricordo della voce di Roberto Pedicini. Lascialo nel ricordo. È il nostro amico, per questo mi permetto di giocarci, è un bell'uomo. No, ma non era questo, intendo dire che il fascino della voce è sì, un qualcosa di molto bello. Jack Folla è stato sì, un momento. Se una parla così c'ha no. Meno chance. Dipende, non lo so. Però dipende. C'è un corpo indimenticabile, noi uomini dimentichiamo la voce. Ah. Voi donne no, giustamente. Ah. Avete il cervello connesso. Vedi? Arriva una bella donna che fa ciao, mi stai, tantera che fai? Io vabbè, la faccio sta zitta. Zitta, arriva un uomo, un bell'uomo che arriva. Senti, tantera, teniamo insieme. vai, guarda, grazie, ho già mangiato. Ma già le 5, dai, ho già senso, mangiato. La voce, però, è qualcosa che, insomma, dai. Sulla sensualità, anche sull'erotismo, sì, ha la sua importanza. Noi potremmo fare un canale erotico. Siamo più bravi di quelle vere che lo fanno. Ciao, chiamami. Secondo me, guarda. Ma quelli non ci sono più, forse, adesso con l'avvento della rete, eccetera. No, dopo mezzanotte vai oltre 800 su Sky e passi un'oretta. Allora. 800? E così abbiamo scoperto cosa fai. Ma no, ma è un gioco, perché vedo tutto io. Sentiamolo invece, questo La verità, che non mi piace abbastanza, questa piccola clip con la voce straordinaria di Domitilla D'Amico. Perché non possiamo essere amici? Insomma, non posso più avere amiche. Non posso più avere delle amiche sensuali. Voglio dire, ma che razza di pregiudizio al contrario è questo? Ho capito. Insomma, e io non dovrei essere amica di un uomo soltanto perché è sposato? Appunto. O perché ha un sorriso pazzesco? O un culo per cui me lo farei vestito? Hai detto me lo farei vestito? Sì. Oh, credo di essermi appena innamorato. Allora siamo amici? Sì. Allora siamo amici, eh. Siamo amici. Restate con noi. Torniamo fra pochissimo con Voice Anatomy e questo splendido parterre di grandi professionisti. A tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Voice Anatomy. Ma eccoci, siamo stati interrotti in questa pausa da Mauro Meconi, che è venuto a portarci i risultati, come il bravo capuano da Milano, ma istruito su cosa sta succedendo nei campi di calcio. Ma noi stiamo praticando il campo dell'arte. Io l'altra sera ho avuto la fortuna e il piacere di condividere una serata, una cena, spettacolo con Francesca Reggiani. E hai digerito bene poi. Benissimo. Dopo, perfetto. E in una platea anche molto difficile, Francesca ha fatto un piccolo monologo veramente interessante, tratto da poi da uno dei tuoi spettacoli, forse l'ultimo spettacolo del tuo spettacolo. No. È un pezzo che ha già qualche anno e faceva parte proprio di uno spettacolo per Sala Umberto, tanto per chiudere con la Laurito, che si chiamava Spaesati. Dopodiché, questo qualche anno fa, naturalmente, risulta ancora tutt'oggi estremamente attuale, quindi nonostante Walter Lupo, basta, quello è vecchio, ma non è vero. Ma dai, allora c'è gente. Tu hai detto prima una frase durante la pausa del GR molto bella, antica, scritta da grandissimo Flaiano, che tu dici, sono passati 50 anni da quella frase, ma quanto è attuale? Te la ricordi? Sì, ma perché me l'hai detta a memoria. Flaiano diceva che naturalmente è un autore, un giornalista, un grandissimo intellettuale anche, sì, no? L'abbiamo anni festeggiato 50, qualche 60, puntata 70 fa. È mancato, sì. Flaiano diceva: io da ragazzo ero sovversivo, soltanto adesso crescendo ho capito che essere da ragazzo ero anarchico, soltanto adesso crescendo ho capito che essere sovversivi vuol dire chiedere che le leggi dello Stato vengano rispettate da chi ci governa. Pensa che meraviglia questo paese, che uno attuale. Fa una battuta e ti rimane attuale per 70 anni. Esatto, alla faccia di Walter Lupo, che dice questo monologo è vecchio. È no? vecchio, oltretutto scritto benissimo da benissimo, lui, quindi sì, Walter è bravissimo. Volete sentire? Sì, si chiama Spaesati, sarà perché un minuto e mezzo. Ma se non ci abbiamo tutto il tempo, è una radio. È una talk radio meravigliosa, dove c'è tutto il tempo per esporre se stessi, quello che si sta facendo con grande serenità. Mm-mm. E allora questo è un pezzo che mi piace molto, perché fa pensare, fa sorridere, ed ecco il sottofondo per te. Vediamo. Benissimo. Spaesati, come quando vai all'estero e hai usi diversi, costumi diversi, senti parlare una lingua che sembra italiano ma non è italiano. Spaesati di fronte a una nazione che canta, balla, gioca, cucina tutto il giorno di fronte alle telecamere, mentre sullo sfondo si dipinge una crisi epocale. Crolli in borsa, crolli sul mercato del lavoro e dei lavoratori, morire in nero per 4 euro l'ora, un altro esempio di economia sommersa sotto un cumulo di macerie. Spaesati fra alluvioni, smottamenti, frane, terremoti, intere regioni sprofondano nella melma, ma non è mai colpa di nessuno, è la solita macchina del fango. evasione fiscale, condono, perdono, voglio pagare per i miei errori, possibilmente in nero. Spaesati, licenziati, disoccupati, cassa integrati, esodati, privati del futuro, se la speranza è l'ultima a morire, dovremmo pagarci sulla tassa di successione. Spaesati di fronte a un paese che ha ridisegnato i suoi confini fra cronaca nera e cronaca rosa, che ha promosso i rotocalchi da parrucchiere in pilastri dell'informazione, le chiacchiere da bar in movimenti di opinione, i quiz televisivi in avamposti culturali a Vetrana, capitale morale dell'Italia. Spaesati come immigrati clandestini, con la sola differenza che io non ho avuto bisogno di fare nessuna traversata per arrivare fin qui, di scavallare nessun muro. Io il permesso di soggiorno ce l'ho, casomai è la voglia di soggiornare che mi sta scadendo. Spaesati fra amore e sesso, fra pill, sex appeal, fra import escort, spaesati fra donne che ti chiedono per un'ora quanto e quelle che si chiedono se non ora, quando. Bravo, bravo anche Walter, bravi tutti. Bravissima. È bellissimo. Grazie. Questo è quell'equilibrio straordinario fra ironia, fra pensiero, fra divertimento, critica, autocritica. Bello, questi sono i pezzi belli. Grazie, bello, io insomma, come sono... sempre, quelli che hanno caratterizzato poi il tuo percorso, perché l'hai sempre alternato in maniera molto interessante. Io ho incominciato intanto per il rotto della cuffia a essere presa, diciamo, a un provino, che sembra un miracolo, però a volte succede di essere presa. Succede? Si ha voglia. Senza conoscere nessuno, senza... Nessuno, un'anima di nessuno. E lì mi prese proiettti. Ah, quel ragazzo. Sì, quel Gigi. Gigi che salutiamo. E, insomma, era bello, c'era Borgna, assessore alla cultura per il comune bravissimo. Di Roma, che sarà una grande Gianni Borgna, una grande persona. Poi. E poi dopo per fortuna ho incominciato a fare televisione, ma quando, questo volevo dire, ho incominciato a fare televisione con i miei colleghi, con i miei compagni che si sanno, io ho sempre fatto anche teatro. Ho quello che mi chiedevano, cioè ho cercato di non essere completamente presa da questo fatto di messa in onda, importantissimo, però mi ritagliavo sempre il mio, e quindi questo poi per me è stato importante. Quanto è importante per essere donna, essere madre, essere attrice, eh? Non è marzulliana. No, ma è bello perché tu riesci, tu facendo a 360 gradi il tuo lavoro, come dice pure la Ferilli che tu interpreti magnificamente. Lo dicono un po' tutti i personaggi miei. E l'ultimo che ho fatto sempre per Movie Mag, che ricordo va in onda di mercoledì su Rai Movie, e si chiama Angelica, che naturalmente è il diminutivo di Masha. È una ragazza italiana, e, prima di tutto italiana. È un'attrice a 360 gradi, con tutte quante le carte in regola per fare cinema, televisione, doppiaggio, televisione, già l'ho detto, e politica, insomma, per sfondare nel mondo dello spettacolo. Tutto proprio. Per me nel mondo dello spettacolo è molto importante l'applauso. Sì. Scusate, ma qui non lo fate l'applauso? Sì, eccolo, guarda, arriva, basta chiedere. Posso chiamarti Masha? Anche in televisione, sì. Anche in televisione, sì. Quando uno vede un balletto, la cosa che a me piace di più è l'applauso dopo il balletto. Ah, certo. Se non fanno l'applauso, uno rimane un po' perplessa. È come se quel balletto non c'è mai stato. A volte io penso che il balletto è il pretesto per far partire l'applauso. Sì, Masha, non hai torto in questo, è un'analisi molto interessante. Interessante. Cioè, il balletto non lo guardi. Il mio sogno nel cassetto è proprio l'applauso. Anche per questo io, per esempio, viaggio molto. Viaggio. Anche spostamenti piccoli che potrei fare in macchina, in treno, ma anche non farli proprio. Io li faccio in aereo. Perché? Perché poi quando l'aereo atterra bene scatta l'applauso. Ma praticamente il pre non conta niente, cioè fare l'amore uno lo fa per poi l'applauso. Ma a me piace, quando mi chiedono cosa vuoi fare nella vita, io rispondo mondo dello spettacolo. Cioè a me piace cantare. Sì. Ma nel mondo dello spettacolo. Per cui Blanche, voi sapete, doppiare anche nel mondo dello spettacolo. Nel mondo dello spettacolo. Io posso anche fare niente, però nel mondo dello spettacolo. Sì, indubbiamente. Sì, Masha, e quando mi chiedono che cosa hai studiato, io rispondo Sì. Sì. Soprattutto molta storia, perché noi siamo un paese tanto antico fin dai tempi degli antichi romani. Sì, sì. I quali prima. Antichi romani hanno costruito molti ruderi. Sì, tanti. Quali il Colosseo e gli scavi romani che ancora tutt'oggi tutto il mondo ci invidia. È vero. Certo, lo studio è importante per un'attrice come me a 360 gradi. Ma anche 380 gradi. Certo, sì. Però io mi sono voluta poi fermare alla scuola dell'obbligo. Ho fatto fino alla terza media. Perché? Perché ho capito che il troppo studio avrebbe influenzato la mia recitazione, che è molto spontanea e naturale. È vero, anzi l'avrebbe macchiata, l'avrebbe portata su una sovrastruttura sbagliata magari. Però non ti senti, sei ricca culturalmente? A me certamente sì, io vado in giro la mattina, a volte mi porto la X da casa e dove mi trovo? Mi trovo, faccio il provino. La X. In un bar faccio il provino, anche qua se lo sapevo venivo con la X e vi facevo un provino, proprio perché mi piace mondo dello spettacolo. Ma l'applauso anche alla fine, se ti piace. La X che cos'è? Cioè la firma che metti sui fogli? Perché la X è quell'elemento che ti consente di fare un provino dove ti trovi. Tu metti per terra la X e fai il provino. Segui moltissimo questi programmi, questi talent. Allora, è molto importante per fare mondo dello spettacolo. Mondo spettacolo è e stare sul pezzo. Sul pezzo, sempre mondo dello spettacolo. Però qualsiasi cosa, anche sull'autobus, magari c'è la fila per il Biltu, è un'occasione per fare mondo dello spettacolo. Ma io penso assolutamente sì. Sì. Sì. E uno ovunque va. Ma dove ti trovi meglio nel mondo dello spettacolo? No, cioè, dove... in qualsiasi modo. Detto televisione, cinema, doppiaggio radio, anche politica. Basta far parte del mondo dello spettacolo. Perché la politica ormai è il mondo dello spettacolo, Masha. Forza, ormai. Ma la cantante l'hai mai fatta? Hai mai inciso qualcosa? Sì, no. Canto. Doppiaggio, televisione, cinema, canto, politica. Canto, basta che poi appunto scatta applauso, che è il mio sogno nel cassetto, l'applauso. Mm. Anche al cinema, se poi dopo il film non c'è l'applauso, te lo dico subito, è come se quel film non l'hanno mai girato. Sì, è quello lì. È un peccato. Io, Masha, ti ringrazio perché non pensavo. Questa è una trasmissione che vuoi anche culturale, insomma, cioè che parla di voce. Ma e tu ci hai raccontato. Naturalmente, questo è uno scherzo, Pino. Però il mondo dello spettacolo piace a tutti. È bello. A voi piace il mondo dello spettacolo? Ma certo, a chiunque. Senza l'articolo. Mondo come dello dice spettacolo. Proietti, core, è il mestiere più bello del mondo. Allora, naturalmente, questo fa sorridere perché oggi i giovani abbiano questa confusione. Io non sono neanche contraria, diciamo, ai talent. Beh, che a volte li ri... ma si vede, insomma, intanto hanno molto pubblico, mi dice Maria, io ho i numeri. È vero, i numeri tante volte però non vanno direttamente proporzionali alla bravura di quello che c'è dentro. No, però ci sono dei ragazzi che si gamba, esibiscono, sì, che certo. Sono bravi. E il passo coi tempi è anche questo, non trovate? No. Assolutamente sì. È televisione, non è musica. Scusami? Sono due canali paralleli ma diversi, nel senso quella è televisione. Dobbiamo andare in pubblicità. Intendo dire che è una maniera come un'altra di fare, di esibirsi, quindi di farsi conoscere, di fare un provino. Ma è il loro percorso. Di fare mondo dello spettacolo. Che io fare mondo dello spettacolo. Tra poco, molto se vogliamo importante. Continuare con mondo dello spettacolo. Scusate, ma non si può fare un applauso tanto bene. C'ha ragione, andiamo in pubblicità con l'applauso. Se no sembra che questa trasmissione non sia mai andata in onda. A tra poco. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, Voice Anatomy. Come sempre, io ringrazio i miei ospiti che sono rimasti tutti dall'inizio. È bello, mi piace, comincia a piacere questa trasmissione, come si dice, osmotica, dove si incontrano vari tipi di cultura, sempre di mondo dello spettacolo, però. Vero, Reggiani? Ma tu farai delle interviste di diverso genere. Sì, me lo auguro, però io mi piace però avere certo, un personaggio come Masha. Se c'hai qualcuno di mondo dello spettacolo, mi piace molto, contento. Per esempio Miss Italia, tutte queste cose mi piacciono molto. Lei, Masha, ha mai fatto Miss Italia? Nota una differenza Pino, fra prima e adesso. Guarda, Pino, che poi questa qui è un personaggio che a me piace tanto, Angelica, che dice: io ho 18 anni, sono una ragazza italiana, mi chiamo Angelica, che è il diminutivo di Masha. Sì, ma è chiaro, è tipico. E naturalmente sono piena di ideali e di valori quali l'Italia, la patria, la fame nel mondo, la carità, gli animali, i cani, il curriculum. Ma non sono valori questi? Sono tanti valori. Sì, no, vabbè. E mi sono preparata apposta perché quello che voglio sottolineare che c'è tanta confusione per i ragazzi che vogliono fare mondo dello spettacolo. Sì, è oggi. Vero, questo è vero. Ma c'è tante cose, tante proposte però ci sono. Allora, io voglio dire questo: mondo dello spettacolo è cambiato negli ultimi anni. Sì, sì, molto. Tantissimo, è cambiato. È cambiato e bisogna stare, importante, al passo coi tempi. Bisogna stare... Per sfondare nel mondo dello spettacolo, sì, è importante avere cultura. Beh. Non è mica più come una volta, infatti, che se una magari fa Miss Italia... Sì. Deve fare solo passerella, avanti e indietro, indietro, avanti. No, no. Sì, no. Oggi ti fanno delle domande. Sì, sì, sì. E tu devi saper rispondere. Beh, certo. E ti chiedono che cosa mangi a colazione. Addirittura. Se sei vegana. Ah. Qual è il tuo ultimo pensiero prima di andare a dormire? Certo. E, se prendi l'aloe vera. Sì. Cioè, ormai la cultura è richiesta, te la mettono, te la infilano, sì, con le forze, è obbligatoria, te la mettono in bolletta della luce assieme al canone Rai. Ah certo, te la infilano ovunque, certo, è proprio di default all'interno di certe cose, bisogna saperlo, è giusto, ma il pensiero, e però poi domande su questa, Miss Italia, veramente, adesso ti richiedono qualcosa in più. Beh, sì, ti richiedono qualcosa anche in una più. Domanda a piacere fanno, ecco, se però tu naturalmente rispondi... siccome i ragazzi poi sono tanta gente che vuol fare... appunto al mondo dello spettacolo, attore o conduttore eccetera eccetera, c'è questa grande confusione. Prima noi ci vuoi fare l'attore sì o no, cioè l'attore, no, adesso invece c'è un po' l'apparire laddove ci sono tanti personaggi, ma io non sono più di tanto, diciamo così, giudicante rispetto a questo, però ci sono tanti personaggi che hanno la fama, cioè c'è un fenomeno di divismo che è quello, sì, che è. Sono da scorciatoia, infatti, però sono poi una scorciatoia. Quello che loro non vogliono assolutamente è cercare di fare questo mestiere per la vita, insomma, in qualche modo non essere consumati da un fenomeno consumistico. Tu hai fatto un film con Fellini, cominciato, insomma, l'intervista, no? Due addirittura. Beh, vabbè, perché io quando ero piccola c'era questa, intanto Cinecittà era abitata era Cinecittà, da film, da set cinematografici, quindi il primo in assoluto fu una comparsa per Paolo Pietrangeli, Porci con le ali. Sì, non ricordo come no. E lì uno, insomma, ti davano quelle 20.000 lire al tempo. Che, e poi io mi piaceva questo fatto dello mondo dello spettacolo, certo, anche a me. Però, vero. Sì, mi sarebbe piaciuto interpretare, appunto, come ripeto, fare anche cose drammatiche, come tanti di noi, come tanti. E allora lì si andava a Cinecittà, si lasciavano le foto. Sì. Non so se vi ricordate. Curriculum. Beh, il curriculum non ce l'avevo perché è così, e allora mi feci prima La nave va. Prima La nave va con Fellini, con Fellini, cioè sembra io e Fellini. Vabbè, ma Fellini era l'autore. Esattamente, era l'autore, era abbiamo fatto queste 3-4 settimane sulla nave che c'era nello studio 5. Costruito nello studio 5, certo. Che c'era il bilico tutto il tempo, no? Quindi scendavamo veramente col mal di terra un po'. Ecco, e poi dopo l'intervista con Sergio Rubini, sì, e Antonella Ponziani. Oh, che brava quella attrice. Eh sì, lì fu proprio il trampolino di lancio per tutti e due. Poi per tutti Sergio e due. Ancora... continua in maniera molto brillante. Speriamo, visto anche Antonella, io me la baio, faccio no? Una piccola parte, però naturalmente questo occhio così all'interno del cinematografo mi ha così permesso di incontrare sia Peppino Rotunno, grande direttore della fotografia, sì, fotografia, insieme a Tonino Dellicolli, che altro era proprio sì, che poi papà andavano tutti lì da Otello a giocare a scopa la sera a scopetta, e un paio di volte sono andata anch'io il cinema. E oggi mi sento un po' midomane quando me vengono ste cose alla mente che racconto, dico boh, ma sarò vero non è male perché guarda che c'ha dell'incredibile, sì, tanti personaggi che abbiamo conosciuto, che bello, Zavattini, Mastroianni l'ho visto solo da lontano, io da vicino un attimo, ma dormiva con la sigaretta in bocca, ma sì, mi è bastato, sì. Però Gassman, un grandissimo Vittorio Gassman, insomma tanti, ma Manfredi naturalmente, Tognazzi, vabbè, non direi, guarda, lo dicevo prima, fino a quella grande memoria storica che purtroppo è mancato l'altro anno, che Ettore Scola li racchiude un po', sì, tutti, un grandissimo maestro del cinema che è... questi che ci hanno raccontato in tutto il mondo, che ci hanno rappresentato in tutto il mondo, sì, come il Cini, Monicelli, sì. scuola. Sì. Bisognerebbe proprio tramandarli tutti i ragazzi nelle scuole, i ragazzi giovani devono assolutamente sapere. Ecco, trovo che ogni tanto, e per questo che io partecipo volentieri a Movie Mag su Rai Movie, perché il cinema è una forma di, adesso dico uno sfondo, dillo. Sto di uno sfondone, vi sei pronto? È una forma di letteratura. Dillo con un'altra voce, così te ne freghi. No, così sei te a dirlo. È una forma di letteratura, esatto, che è importantissima. È bellissima. No? Quindi... Non si può vivere senza il cinema. Sì, ma pensa che queste, da poco ho rivisto anche Nuovo Cinema Paradiso, integrale, restaurato, tutto. Eccetera. È un capolavoro. Sì, ma gli ultimi 20 minuti di quei baci vale tutto il film. Che è tutta la storia, a me è piaciuta. Bello davvero. Dottoressi, signori Blanche. E adesso che succede? Ma che facciamo da grandi? Questo nome Blanche? Perché sta la piazza, all'inizio le hanno detto. La piazza Blanche, che sta sotto il Moulin Rouge. Esattamente. È vero, perché anche lei conosce molto bene Parigi. Ma infatti in pausa stavamo parlando, insomma, Blanche Fontaine si chiama, o qualcosa del genere. Ma perché abitate lì? Sì, no, in realtà lo studio è a Blanche, e quindi nella tradizione del rock il luogo dove viene realizzato il disco e poi, o dove viene formata la band, poi la band ne prende il nome. Quindi ho voluto fare un omaggio al, che poi a questa tradizione. Apro parentesi, studio anche casa mia, però. Vabbè, certo, è riconvertita a studio. C'era una venatura di fatto, mancano gli ultimi due mesi d'affitto. Esatto. Blanche è un nome più bello di Piazza Tuscolo, con tutto rispetto, perché comunque sembra una cosa, cioè va da Moretti appunto, sì, esatto. Bianca, esatto. A qualcosa di etereo, sempre come comunque. Lo dici, Tuscolò. Tuscolò è vero, cambierebbe. Tuscolò sarebbe giusto. Quale voce lo dici? Sì. Per esempio, qualcuno ha detto un giorno: dobbiamo andare lì al quadraio. Perché pensava che il quadraro era una forma romana del quadraio. È come il signor Betto invece che il sorbetto, perché sembra sorbetto, sembra certo. Il sorbetto, il signor Betto che è molto più rotondo. Ce lo sentiamo un altro pezzo, sono cinque pezzi oggi. All'inizio non sapevamo se riuscivamo a sentirli. Vogliamo lanciare ora? Dai, sì, mi sono rimasti due titoli di questo EP, perché esattamente è più corto dell'LP. EP perché è il nostro biglietto da visita, insomma, è stato il nostro disco di presentazione. Volevamo che non ha un titolo. Che non ha un titolo per il momento. Che perché... può essere chi, può essere è quello che vuole. No, sono cinque piccole presentazioni del nostro lavoro. Poi ovviamente. No, non è vinile, no, è in elettronica ancora. È tutto distribuzione digitale. Tutto digitale. E, ovviamente poi YouTube, insomma, Facebook, i nostri canali. Però sì. Perché sì. Poi non abbiamo detto, ogni brano è stato pubblicato su YouTube con un videoclip associato. Per cui c'è, mi hai detto durante la pausa che ci sono stati cinque registi che hanno raccontato cinque storie, esatto, sui vostri cinque brani. Noi volevamo ispirarsi alla musica. Bello. Abbiamo trovato una forma nuova, insomma, almeno abbiamo il nostro esercizio l'esercizio di volevamo, stile. E poi ci piace l'idea anche di collaborare con persone che stimiamo, che fanno il nostro percorso, ma in un altro ambito, insomma, quello del cinema. E è bello, come dicevamo all'inizio, insomma, all'inizio dei progetti o nel corso della loro evoluzione, poter avere persone che combattono la tua battaglia, no? Esatto. E quindi tu sei un valore aggiunto per loro, loro e lo loro sanno per te. Un valore ed aggiunto è questo per te, il connubio che segreto ci piace. Della vita per vincere. Quali ci ascoltiamo dei ora. Due? Ora. Ah, ora era il titolo. Ora, esatto. Ora ascoltiamo. Ora. Vai. Nessun altro, a parte noi, sa dove ci nasconderemo. Siamo bellissimi e fragili, come ali di falena. Che un fremito sappia scuoterci, sabbia contro vento, tieniti, aspetta solo a noi, difenderci, spalla contro spalla, coprimi, prima o poi capirai che la sedia è già qui. Già qui, o combatti o siamo fratelli di Ventura, che un fremito sappia scuoterci, sabbia contro vento, tieniti, aspetta solo a noi, difenderci, spalla contro spalla, coprimi, prima o poi capirai che la sedia è già qui. Ora, questo è il quarto, il penultimo, forse riusciamo a sentire 25, dai. Speriamo, insomma. Ah sì, abbiamo fatto questa trasmissione, ho parlato con gli autori e mi ha permesso di fare questo gruppo di lavoro, grazie anche alla vostra disponibilità. Grazie a voi, è stato un piacere essere qua. Ma così credo che la gente si diverta anche di più, perché ascolta un monologo. Un divertissement di Francesca Reggiani, una chiacchiera, una domitilla d'amico che ci racconta, un pezzo musicale, così è il varietà, perché altrimenti rischi di fare a piccoli capitoli che magari possono magari annoiare, perché se raccontano 10 barzellette di seguito dalla quinta non ridi più, no, invece certo. Alternando. Beh, sempre dipende dalla barzelletta. Sì, però uno si abituano, si possono abituare, insomma dipende, poi devi farne una corta, una lunga, eccetera. Mi facendo Alessandro che siamo arrivati alla fine del penultimo blocco, passeremo l'ultimo blocco insieme, gli ultimi 2-3 minuti li dedichiamo alla trasmissione che seguirà, che è Tutti Convocati con Capuano. Sono molto sereno perché la mia squadra ha giocato ieri e allora sono proprio felice e tranquillo. A tra poco. Per il nostro ultimo momento ne devi usare. No, non c'è stato il derby. Ci sentiamo fra pochissimo a Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ed eccoci arrivati agli ultimi 10 minuti insieme che passerò con i miei bellissimi artisti ospiti come Blanche, ovviamente Axel. Guarda, Ruben, primo, comunque da parte nostra, sì, di tutti quanti, penso di Domitilla, dei Blanche, sì, sicuramente anche è una dimostrazione di notevole affetto e simpatia verso di lui, che in effetti lo è. Siamo sì, sì, perché sennò di domenica alle 3, sì, capito, tu ancora, ma quando no, ti svegli la mattina, scusa, no, ma io guarda, io la mattina mi sveglio, faccio le mie cose, per carità, poi sempre un po', sai, noi, però poi magari dopo mangiato uno invece di prendere la macchina di arrivare fin qui se ne sta, okay, per conto. Senti, fare quello che vuole. Sabrina Ferilli, c'è Capuano in diretta. Buono, Ferilli, guarda, tanto presenti? Tempo con una, eccoci, faccio qua, sì. C'è Capuano, uomo, è un uomo stupendo. Capuano, no, ah, no, sì, no, bellissimo. Non è. E poi lo sai che io, insomma, ho una passione molto per calcio. Esatto. Sicuramente. Sei laziale, no? Senti, guardami, per cortesia, adesso non mi prende in giro più di tanto. No, eh, più di tanto no, sapri. Capuano, eccoci. Mi senti tranquillo nell'ascoltarti? Ti sento, eh? Tranquillo perché la Lazio ieri sono, esatto, ha fatto una grande partita. Ma devo dire che l'ha fatta sempre, a parte una. Cioè, è l'unica che non dovevo intenderci. No, anche quella. È quella del derby. Quella, ecco, stai sereno per il derby. Ma. Ho visto un paio di grandi assist, ho visto, sì, settimana, sì, scorsa, ma non parliamo di settimana scorsa. No. No, non vale la pena. Che succede? Oh, ti dico che ha appena segnato Higuaín, gol del 2-1, ecco, nel derby di Torino, quindi Juve che, eccolo, avanti là, di rimonta per 2-1, aveva segnato Belotti, poi doppietta di Gonzalo Higuaín, siamo nell'ultimo minuto più recupero di I questa grandi partita. Escono sempre alla distanza, poi, sì, ha fatto non un secondo da gol fare. davvero straordinario, dai, un campione, davvero dai. Numero 9, poi sta, sì, vincendo incredibilmente l'Udinese 2-1 sull'Atalanta. Perdeva. A Bergamo era 1-1, questa partita è la metafora della vita, l'Atalanta poteva vincerla 4-5-6-0 fra traverse, salvataggi sulla linea, parate del portiere, in questo momento sta vincendo 2-1. E anche la bellezza del calcio. Assolutamente. Dove vale tutto il contrario di tutto. 0-0 Bologna-Empoli, 0-2 Palermo-Chievo, ecco, all'ora di pranzo 5-0 del Napoli a Cagliari. ha confermato una grande forza. Tripletto insomma, di Mertens, Hamsik e Zielinski. E devo dirti che con questa vittoria il Napoli affianca la Lazio sì, al quarto posto. Ma va bene, siamo al quarto posto. Normalmente ci affiancavano al settimo. Per cui a me è stato bene che no, ci devo, affiancano devo al quarto. Devo controllare il confronto diretto. Probabilmente vabbè. È statistica alla mano è davanti, eh. Sì, vabbè, ma sono a pari punti, Capuano, ma è possibile, metti sempre mette qualcosa che non c'entra niente. Devi essere un giornalista asettico, oggettivo, non devi dare giudizi. Li devi universali. Dare. Esatto, esatto, Francesca, non è che noi stiamo dando giudizi in giro, quello è bravo, esatto. Davo due numeri. Oh, stasera Inter Genoa, domani Roma Milan, Fiorentina Sassuolo. Che ti e poi Milan Roma. Milan no, Roma Milan, Roma Milan. Roma Milan, sì, scusami. Roma stasera? No, domani ore 21, sera. Ma insomma la notizia di questa domenica dovesse finire così è che la Juve è tornata, non si ferma. Insomma, esatto, non si sì, ferma e quindi sta viaggiando al ritmo del girone di ritorno dell'anno scorso. Beh, con la differenza che l'anno scorso aveva regalato le prime 10 partite. Esatto. Quest'anno non no, ha lasciato il bonus. Esatto. E poi c'è Milan, Juventus e Roma fra due settimane. Insomma, vabbè, dai, sarà divertente. Campionato più divertente, dai, mi piace. Mi piace, soprattutto mi piace la mia squadra in questo momento. A me non mi fa divertire. Io certo, dici, ma che non perdi mai la voce? Te? No, la perdo, no, non segnano mai, ma non la perdono. Per cui va bene così. Capuano, buona preparazione di trasmissione. Mancano 6 minuti e 30 secondi, 20 secondi e tocca a te. Siamo agli già altri pronti, tuoi siamo già pronti. Moschetti e Bugiardo. Va bene. Ciao Capuano, Iguain domenica stava prossima per fare il terzo, ciao. Meno ciao, male, ciao. Tipo di quello che vuoi, tanto non gioca la mia squadra. Però tipo... l'ha fatto Dybala, 3-1 della Juve, no Rugani, no Pjanic, chiedo scusa. Mazza, ne avessi preso uno. No, c'è stato un certo batti e ribatti, alla fine ha segnato Pjanic, 3-1 per la Juve. Alla fine ha segnato Benazia, che non c'è, vabbè. Ciao Capuano, buona trasmissione, ciao. No, è bellissimo questa. Anche qui c'è una certa osmosi a Radio 24, dove le trasmissioni si accompagnano, si presentano, si lanciano, come dovrebbe essere. Comunque il tuo sguardo nel vuoto mentre parlavi della Juventus, insomma, per gli amici ascoltatori, insomma, no, stai soffrendo, insomma. No, soffrendo no, mi tranquillizza. No, mi tranquillizza. No, il mio successo non è mai l'insuccesso di un altro. Ma nel calcio è difficile, soprattutto vivere questa è città. La commedia, no? È difficile, certo. No? Io per carità sono non oltre integralista, sono sportivo al massimo, cioè mi apprezzo le giocate belle, non sono uno che parla male dei Totti perché la bandiera della Roma, anzi lo esalto, magari ce ne fossero di più. Vero. Per cui sono attento. Però certo, goliardicamente parlando, non posso, no? Un po' d'amarezza, no, un po' da sprezza. Voi da Parigi seguite un po' di Paris Saint-Germain, no, certo. Io dicevo, non ho idea di chi abbia vinto il campionato negli ultimi 10 anni. Proprio la Juve, sempre la Juve. Ma forse in Francia si segue, i francesi hanno meno, diciamo. No, credo ce l'abbiano, però siamo abbastanza distanti. Meno. Mi sono fermata a Platini, Michel Platini, che giocava con la Juve, ma non è tanto quello, è proprio che a Roma, soprattutto, più che in Italia. In Italia si vive molto, ma è Roma che vive il calcio in maniera. Ma stai scherzando? Tu poi vince l'Oscar, ma sei della Roma o della Lazio? Anche il rugby. Ma in tutta Italia ci sono delle grandi tifoserie, non credo che sia un fatto solo romano. No, ma a Roma si vive molto più intensamente. Roma è viscerale. No, questa è una roba. 20 trasmissioni che parlano di calcio, 20 televisioni private che parlano di calcio, non ci sono altre parti. Anche altrove. Meno. Se tu cammini con me per strada, su 9 persone, su 10 mi dicono Lazio, Roma. No, essendo della Lazio, la gente lo sa, perché un romanista mi prende in giro, il laziale mi accomuna. Però è sempre in maniera molto simpatica, devo dire, non ho mai ricevuto. Tu partecipi al mondo. Ma no, perché sono onesto. Mondo dello spettacolo sportivo. Mondo di spettacolo sportivo. Sportivo. Beh, radio, fai questo? Sì, lo facevo adesso un po' meno, meno, perché altrimenti a me mi chiama solo il Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport, è tutto sport, sono le 24 ore la parte dello sport. Cioè, non mi chiama. Ma fosse uno che mi chiama e dice, Pino, ho visto che stai facendo teatro ultimamente. Cosa fai adesso ultimamente tu, Pino, a teatro? Oltre a questa bella trasmissione, in questa bellissima radio. Vado allo stadio e vedo la mia squadra. Scherzo, no, la domenica. No, teatro sicuramente mai lasciato. Adesso andrò a Reggio Calabria, al Cilea sabato prossimo a fare spettacolo. Lunedì sarò a Milano. Sempre con Roberto? No, questo no, perché Roberto è in scena, è impegnato al Piccolo Eliseo con uno spettacolo bellissimo su Dio, ma bello. Infatti, non vedo l'ora di parlarci e di andarlo a vedere. Allora, Ciuffoli. Saluto anche a Ciuffoli. Sì, a Ciuffoli. Loro hanno fatto un bellissimo spettacolo qualche tempo fa. Ti insegno un par di Ciuffoli. Sì, e devo dire che a me fa ridere. Sì, molto faceva ridere. No, poi grande goliardia, ma grande professionalità. Insomma, cioè, siamo un po' è vero. Quelli che possono raccontare la va spettacolo. Ma è sempre una comicità molto sana e bella. Il tuo come si chiamerà di spettacolo? Questo è C'era una volta, signori e signori, buonasera. Dove io ripercorro un po' la televisione con il dio dello spettacolo, me lo fa Massimo Lopez e mi rimette nel mondo degli anni 60, dove io intervisterò Mastroianni, canterò con Renato Rascel, duetterò con Aldo Fabrizi, dico le poesie con Troisi, danzerò il Tuca Tuca in un effetto speciale con la Carrà. Insomma, un mondo, rivivere quel mondo che non c'è più. Solo? Sono con i Barahona e con altri due attori giovani ma molto in gamba. Barahona è un gruppo musicale. Sì, beh, sì, sì. Bello. No, no, è divertente, è divertente. Signori, siamo arrivati alla fine. Vi ringrazio di questa piccola intervista che ho ricevuto. Mi piace molto. No, io ho piacere di. Sì, sì, facciamo lo stesso mestiere, diciamo, in qualche modo. Sì, sì, poi noi viaggiamo paralleli per ora. Intanto oggi abbiamo rotto, diciamo, il parallelismo di queste due rette. Perché io sono venuta qui da Pino, però io lo conosco da sempre, insomma, mi ricordo quando ero ragazza che loro già erano un gruppo bello e formato e quindi li andavo a vedere, per cui ci seguiamo, e ogni tanto è bello anche e ci si vuole bene, è bello. Sì, sì, non assolutamente c'è dubbio. Sì, allora signori Blanche, Axel e Ruben, in bocca al lupo per questa bella avventura. Grazie per averci ospitato. Spero di avervi ancora qui quando avremo le date. Grazie. Dove dirla d'amico? Grazie di averti riavuto. Grazie, perché la prima puntata di oltre di due anni fa voglio sei stata la prima. Sempre. E io ti inviterò quanto vuoi, voglio una voce così e un'amica così. E no? Grazie di tutto. E Francesca, la prossima scusa che avrai uno spettacolo qui a Roma sarà una scusa per rivederci. Tanto per riprendere un caffè qui sotto la signora del bar, che quando mi ha visto entrare verso le 3 al bar mi dà un caffè, ha detto: ma lo sai che poco fa è venuto anche Pino Insegno? Ma oggi che succede? Sono due anni che vengo qua. Esatto, vai in onda come adesso tutte ci le ritorniamo domeniche. Tutti giù, tutti insieme. Vediamo cosa dice. Un colpo la signora. Esatto. Vediamo cosa dice. E allora, signori, grazie a tutti. Ci grazie sentiamo. Alla tua redazione, a tutti grazie. Grazie, Alessia Navarro. Grazie a Mauro Megoni. Grazie a Rachele. Grazie, Alessandro. Grazie a Milano. A te la parola, Capuano e gli altri moschettieri. A me di mi tutti piace tanto sto Capuano, tu posso dire. No, però fisica, io l'ho mi visto. Mi piace Capuano, mi piace. Già sono Capuano. È vero, piace. È rotondo. Mi piace tutto quello che è rotondo. Domenica. A domenica prossima, voi sanatomi, grazie.